dirette, ma avete rotto i coglioni con questo programmino? Perché è un programma di merda, dai, questa zanzarina, mo ti spruzzo l'autan, eh. Io avrei una leggera voglia di sentirvi proprio che chiudete bottega e basta con questa radiola di merda, basta, forza, dai, su. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Pronto? Questa è la 24, vero? Vorrei scaricare 1000 camion spurti sulla mostra del cime di Venezia. Io voglio il mio cospetto. Voglio quel porco di Saviano. Deve venire ai miei piedi. Voglio Giovanotti. Voglio Mario De Filippo, diciamo, il moglie di Maurizio Costanzo. Voglio Venditti, voglio Crozza. Voglio l'immigrazionista Bennato che vuole la frittata. Voglio Alessandro Gassman. Voglio la Lizzetto, voglio Muranda, anche il Mangiamerda, Perilli, un sacco di gente, Moria De Gregori, il capitalista Fazio, Mannoia, i Muppets, Faz, Fedez e J-Ax, questa gentaglia li voglio avere avanti e mi devono dire perché vogliono che l'Italia si islamizzi e si africanizzi, me lo devono spiegare! Tutti questi pseudo-artisti di merda, anche quel culo rotto di Toscani, con quelle sue foto di merda, indietro con la negretta, in bianco e in nero, che è morta, quelami, indietro con la negretta, in bianco e in nero, che è morta, quelami. Buonasera, a voi da Diego Fusaro. Parenzo, ti voglio carico! Vi amo. Allora, caro David, io oggi ti vorrei far ascoltare, ma lo farò più tardi, alcuni messaggi che mi sono arrivati durante questi due giorni. Dopo che la vicenda dei carabinieri, non dico che sia chiarita, perché ovviamente non si è chiarita, però alcuni aspetti li conosciamo, alcune cose le conosciamo. Stiamo parlando naturalmente del presunto stupro, vogliamo chiamarlo così, perché ancora ovviamente le cose non sono accertate al 100%. Presunto stupro. Garantisti, nel senso che la difesa. Voi di Libero siete bravi. Io non sono di Libero, sono della Zanzara, non c'entra nulla. Molto bello, anche ben argomentato, poi ne parleremo comunque. Però scusami, Davide, la cosa è molto semplice. Siccome c'è la versione di un carabiniere e la versione di queste ragazze, per adesso non è chiaro, non è ancora sicuro che si sia trattato di stupro. La cosa sicura è che questi carabinieri non dovevano portare quelle ragazze in macchina. Quello mi pare evidente. Perché poi questi carabinieri prima erano dentro la discoteca, poi l'hanno aspettato queste ragazze fuori? Come mai hanno lasciato la macchina per 20 minuti isolate e sono andati a casa o comunque nell'androne nel palazzo di queste ragazze? In ogni caso, non possiamo dire stupro al 100%, non possiamo dire questi due carabinieri sono non stupratori. Non sono l'ispettore Clouseau, non lo sappiamo. Dai, questo qua. Sappiamo che uno ha confessato, ha detto di aver avuto un rapporto consenziente. Ecco, è già quello comunque è un gravissimo reato, come tu sai, perché come hanno quindi è una forma di stupro, l'hanno spiegato fior di giuristi. Non l'ho letto sul giornale al quale tu hai regalato la tua firma, ma lo dico senza far polemica, senza arrabbiarmi. Non l'ho letto sul giornale dove c'è scritto in prima pagina libero, libero di dire che cosa? Sciocchezze. È libero di dire sciocchezze quel giornale, perché sul giornale sul quale tu ti onori di scrivere, mi fa piacere, ti voglio bene, ti abbraccio, ti stimo da tanti anni e lo sai, però non ho letto che quella, secondo secondo gli avvocati, è comunque una forma di stupro, perché approfittarsi di due ragazze sotto alcol e magari che hanno fumato una canna da parte di forze dell'ordine è comunque considerato sopraffazione di persone che non sono in grado di difendersi in quel momento, quindi è comunque uno stupro. Dopodiché continuate a fare gli ispettori Clouseau, continuate a relegare quella notizia a pagina 15, continuate a occuparvi solo dello stupro di Rimini. Vergognatevi, vado via. Io ho detto semplicemente una cosa, che non è ancora sicuro al 100% che si sia trattato di stupro. Uno tecnicamente nega, si tratta di stupro. No, si tratta di stupro, ma quello quando dice tu ti che approfitti ma, di una persona ma non il carabiniere consenziente. Dice che il rapporto è consenziente. Ma questo come è fa a essere consenziente? Ma pure secondo se me una non è così. È piena di alcol e di hashish. Come fa a essere consenziente? No, ragazzo mio, io sto dicendo. No, ragazzo la, mio, niente. La non difesa è dice mio. Una cosa. Adesso improvvisamente Cruciani diventa garantista. Fatto sta che non ho letto queste notizie su Libero, te lo giuro, l'ho comprato per la prima volta nella mia vita, tutti i giorni l'ho comprato, dicevo ma ci sarà la notizia, no, immigrati portano malattie e quegli altri portano la scabbia e quegli altri stuprano, ma sfogliavo, dico ma forse non so più leggere, a pagina 15 c'era ieri, a pagina 15 c'era, 15! Ma che te ne frega di Libero, No, lo dico perché... Ma che te ne frega di Libero, sai, tutta la tua attenzione sul Libero, dai, con nessuno, su. Però, sai... Comunque ragazzi, se sono colpevoli secondo me vanno cacciati e puniti col doppio della pena in quanto carabinieri, mi pare evidente una cosa del genere. Adesso il doppio non lo so. E comunque io sono convinto da quello che ho letto. Tribunale militare. No, ma sono anche convinto che sia andata così. Cioè, ma sono hai anche... letto male però. Evidentemente hai letto male, perché secondo gli avvocati, quello lì per il codice penale, trattasi comunque di stupro. No, ma perché quando se tu non è consenziente ti approfitti di... Beh, non poteva essere. Intanto, allora, eliminiamo la discussione, perché ma quello è... pare che gli ha chiesto il numero di telefono secondo l'avvocato. Vedremo. Sì, sono... ma appunto sto dicendo, vedremo. Allora, se che cosa fare senza vedremo? Con l'alcol, ho detto che in base a quello che abbiamo letto, non su il quotidiano Libero per ora. In base a quello che abbiamo letto, abbiamo letto che erano due ragazze che avevano bevuto molto, forse troppo, e che una delle due si era pure fumata una canna. Non era in stato cosciente, cioè capace di intendere. Vabbè, scusa, di non ho capito che vuol dire che chiunque scopa con una o comunque ha un rapporto sessuale con una che si fuma la canna ubriaca, poi se non sia in grado qua. Dipende. Avrebbero dovuto arrestarti da vent'anni, no, anche me, tutti praticamente. Hai avuto un rapporto con una fumata? No, perché io voglio ma avere gente lucida, che sente Parenzo, gente lucida, non voglio appunto ammorbidire la pillola, voglio avere la presenza io. No, ma questo WhatsApp osceno che è arrivato, mandiamolo, va, il WhatsApp osceno contro le ragazze, perché c'è una parte d'Italia consistente che voglio sentire, non voglio bannare come vorrebbe fare qualcuno in alto, vorrebbe fare qualcuno anche in una trasmissione televisiva che si chiama L'aria che tira, vorrebbe bannare lo sceno, vorrebbe bannare... Ha ragione, ma che ha ragione? Se fai riferimento alla campagna che sta facendo l'ottima Mirta Merlino oggi con la presidentessa della Camera, aspetta, sono d'accordo assolutamente con lei, una bella campagna, io sono contro al 100%, grazie Mirta, grazie alla Sette. Sentiamo questa roba senza interesse di parte. Non ci credi. No. Stai dicendo delle cose in cui non credi. Sentiamo d'accordo. Questo WhatsApp. Bannare le sentiamo, cattiverie. Bannare nessuno, sentiamo. Ma quale cazzo stupro? Quale stupro? Che bisogna denunciare queste due zoccole americane che hanno violentato i due carabinieri. Sono le ragazze americane che hanno violentato sessualmente i carabinieri. Ma che cazzo dici, coglione? Con questo che cosa bisogna fare con questo personaggio? Bisogna denunciarlo, bisogna che dai il numero di telefono. No, anche denunciarlo, lo denunceranno gli avvocati delle americane, casomai, io che c'entro. È una mancanza di rispetto verso le due ragazze che hanno sofferto e che stanno anche soffrendo una cosa pazzesca. È di una volgarità inaudita e non aggiunge nulla alla discussione se non imbarbarire, perché questo è un cretino, anzi molto di più di un cretino. Però, e andrebbe sanzionato. Però ti faccio presente una cosa, che per esempio un rappresentante della lista Adinolfi Adinolfi, un collaboratore del giornale di Adinolfi. Non sapevo neanche che Adinolfi, cioè, non è che un solamente giornale, uno che chiama la Zanzara, uno che chiama un'altra trasmissione. È un collaboratore di Mario Adinolfi, un tale che si chiama Filippo Fiani. Filippo Fiani ha scritto: in effetti, io sono più d'accordo con il fatto che le americane siano due zoccole che hanno adescato due bischeri in divisa per poter riscuotere l'assicurazione e farsi il viaggio in Italia gratis. Anche questa è una cosa, allora, questa dell'assicurazione che hanno scherzato. Pare che sia una cazzata. Comunque, è proprio la fake news più grande della storia. Filippo Fiani, collaboratore di Mario Adinolfi, ha scritto: ripeto, in effetti io sono più d'accordo con il fatto che le americane siano due zoccole che hanno adescato due bischeri in divisa per poter riscuotere l'assicurazione e farsi il viaggio in Italia gratis. Dove l'ha scritta? Facebook, Twitter, cazzo che è. Chiudere tutto, basta. La Boldrini dice: sono sotto attacco. Ma ragazzi, fa ridere. È verissimo. Fa ridere. È una cosa un da ridere. Ma di è che? C'ha scorta 50 persone che lavorano per lei da tutte le parti. Non ma è sotto attacco di nessuno. È sotto attacco dei coglioni che la insultano su web. Il presidente della Camera non legge i commenti di lei che dicono bersaglio di lei su web. Ma bersaglio di cosa? È ridicola. Non è bersaglio di nulla. È un bersaglio. Ma lo vedi? Ma lo dici? È un bersaglio. È una stronzata. È una stronzata. È un bersaglio. È un bersaglio politico di gente che non la pensa come lei. Dopodiché la gente che la minaccia denunci. Ma quale? Sì, ma c'è cattiveria, certo. Certo che c'è cattiveria. E allora, ma come? Denunci le persone. Amore, ma sai chi c'è? De Michelis, vecchio, cioè, mi diceva ogni volta che parlava, poi dopo dice tutto il contrario. Dice: no, amore, ascolta. Sì, l'ho già detto. L'ho ripetuto nell'edizione passata, l'ho detto e lo ripeto anche in questa. Vai. Lei è spesso sotto attacco per queste sue caratteristiche, per queste sue idee, o c'è dell'altro? Ma io sono sotto attacco come lo sono tante donne che si esprimono, che non intendono abbassare la testa. Penso che anche lei, Mirta, sa che cosa significa questo. Non c'è nessun attacco, ci sono quattro coglioni sul web. No. Ma distinguiamo le cose: sotto attacco sono le città bombardate. Ma sotto attacco, ma non c'è nulla, dire, ragazzi. Ovvio, ma dai, insomma, non è nessun modo di dire. Poi dice: l'evocazione dello stupro, che è una porcheria, l'abbiamo condannato pure qua nei suoi confronti, come nei confronti di chiunque, naturalmente. E evoca il Ruanda. Ragazzi, in Ruanda stupravano veramente. Erano coperti. Ma ragazzi, ma di che parliamo? Ci sta paragonando in Ruanda, quello che è successo in Ruanda, stupri, eccidi di massa, con quattro coglioni che su web parlano di stupro della Boldrini, che sono dei deficienti, andrebbero sicuramente denunciati e se ha voglia li può denunciare. Ma di che parliamo? Ma di cosa parliamo? Fa paragoni assurdi, non c'è nessun paragone che si può fare in Ruanda, non c'è nessuno sotto attacco, nessuno è sotto attacco, è una stronzata, è solo per visibilità questa roba qua, dai! Quale visibilità? Ah dai, su! Si arriva ad evocare lo stupro. Guardi, qui non c'è più niente da dire. Io questo l'ho visto solo in guerra, l'ho visto nella ex Jugoslavia, l'ho visto in Ruanda. Evocare lo stupro contro le avversarie politiche è qualcosa di inaccettabile in una democrazia. Ragazzi, ma siamo d'accordo? C'è perfettamente ragione. Ma, giusto ma, che lo dica. Ma che vuol dire? Che ma che vuol dire? Ma abbiamo condannato pure noi queste persone. Le abbiamo chiamate e gli abbiamo fatto un culo così. Vuol dire che il livello di imbarbarimento della gente. Ma sono quattro coglioni. Sanzionato. Ma denunciasse. Anche fossero qua. Infatti. Ma li denunciasse. Ma vanno bloccati, non hai capito? Quando uno fa una scritta su un muro, in genere si cancellano quelle scritte, giusto? Dai, fermo. Oh Cruciani, ma Fusaro che droga figa che la voglio anch'io. Faircam Transport, il vostro partner per trasporti a carico completo o parziale. Faircam.com. Vi presento La Zanzara. Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Sono anni ormai che ascolto la Zanzara, ma non c'è niente da fare. Tutte le volte che sento David combattere davvero, mi emoziono come fosse la prima volta. Allora, una consigliera leghista della lista Gentilini a Treviso se devo dirla tutta, io ho dubbi soprattutto verso le due ragazze, perché una aveva fumato cannabis e l'altra era ubriaca. Cosa ricordano? Sarebbe così strano se non fossero state consenzienti. E poi c'è di mezzo un risarcimento milionario. Natale Petra De Zanet. Petra De Zanet. Ragazzi, vogliamo dire subito una cosa. Il fatto che queste qua, qualcuno dice, siccome hanno fumato, siccome erano ubriache, allora non ricordano, allora sicuramente volevano fare qualcosa. Non c'entra un cazzo, no, non c'entra nulla. L'unica cosa che conta è il consenso. Che pensi di avere dubbi su quello che... Non l'ho trovato scritto su Libero, queste, tutte queste analisi che fai. Ma cosa me ne frega, me li Libero. Ho trovato che gli immigrati portano le malattie. Lì ho trovato dei dossier proprio... Dossier. Diego dalla provincia di Roma, dai, Diego. Eccomi. Dai, Diego. Buonasera. Dimmi, sono dimmi. Degli eroi, carabinieri. Come sono degli eroi, carabinieri? Sono degli eroi, nel senso che gliel'hanno messa sul piatto d'argento. Cosa deve fare la figura dei proci? Sono dei pesci perché erano di vita e perché avevano la macchina. Ma per il resto, viva l'italica virilità. Porca miseria. Viva l'italica virilità. Ma cosa vuol dire? Viva l'italica virilità. Hanno trovato due ragazze che si sono messe davanti. Ma che ne sa? Portate a casa. È scemo. La patata davanti agli occhi e l'hanno trombate e queste qui ci stavano. Ma segnala il nome di questo qui, ma che è scemo questo. No, ma no, scusami, aspetta, mi Diego. Ma devi, è scemo innanzitutto questo. devi mettere meglio il telefono, perché sennò non si capisce. Sì, eccomi, ci sono. Ecco, ma appunto. Questo è scemo. Allora, dice no, cose, ripetiamo le cose. Tu hai detto i carabinieri. Ma dice, sono... no, non c'è da ripetere, dice delle cose gravissime. I carabinieri sono degli eroi. Perché sono degli eroi? Ma che? Perché hanno semplicemente... A parte dato, che uno di questi non si sente troppo eroe, perché è andato subito con la coda tra le gambe, peraltro, con l'avvocato, dal magistrato a dire... Ma hanno sbagliato perché erano in divisa, perché avevano la macchina di servizio, sono punibili per tutto quello che hanno fatto al di fuori... Ma non per, per il rapporto sessuale, dici? Ma scusa, ma sono andati in discoteca, ma quante volte siamo andati in discoteca, abbiamo trovato ragazze mezze sbronze... Ma cosa vuol dire? Pure, e abbiamo fatto del sesso tranquillamente. Ma che ne sai che erano disponibili? Ma che cose agghiaccianti sta dicendo? Ma come se gli hanno dato pure il numero di telefono di casa? Ma quello lo dice l'avvocato. Quello lo dice l'avvocato. Ma adesso è tutto da provare. Ma che vuol dire? Erano sotto alcol. È tutto da provare. Ma è gravissimo che le forze dell'ordine si siano prestate a questo. Mica sono dei dieghi qualunque chi ha la divisa. Quelle si sono fidate. Si sono fidate di vedere l'uomo in divisa. Ma vergognati di quello che dici. Non è possibile, è meraviglioso. Tutti gli uomini di vita, il fascino della tua deficienza, il fascino della... Ma digli qualcosa, Cruciani. È una cosa vergognosa quello che dice questo qua. Sto miserabile. Hai detto anche viva la grande virilità italica. Prima hai detto, ma cosa cazzo c'entra la virilità? Qui pare che sia uno stupro. Io non parlo con questo imbecille. Ma perché escludi lo stupro? Io non ho capito, Diego. Perché escludi l'ipotesi che ci sia lo stupro? Io non parlo con questo imbecille. Lo stupro l'hanno escluso in ospedale, i medici hanno detto che c'è stato un rapporto ma non violento. Ma cosa vuol dire? Non è una... Ma che ne sai? Ma che vuol dire? Ma lei è proprio stupido. Denuncialo. Basta, chiedete il numero di questo qua. Tenete in archivio il numero di questo qua. Che c'ha? Ma quali medici? Che perizia ha visto? Ma di cosa parla? Pazzo! Pazzo volgare! Pazzo! Pazzo! Ma cosa c'è? A parte che lo stupro non è necessariamente violento. Se tu fai qualcosa, non è che c'è per forza l'aggressione. Ma chiudilo, chiudilo! Ma perché devo chiudere? Ma perché devo chiudere? Uno stronzo, dice delle cose terribili. Consenziente. Ma cosa ne sai? Senti, no, io non posso, scusa, ma non posso c'entra? Parlare con sto schifoso. Io con sto schifoso non parlo. Non ho capito che c'entra la grande virilità. È uno schifoso. Il fascino della divisa. Ma se lo sono fatte, volevano fare l'amore con due uomini in divisa italiani. Questi, ma che ne sai che volevano? Invece di fare i proci. Ma che ne sai che volevano? Invece di fare i proci. Ma dice delle volgarità. Guarda, puoi denunciare questo qui. Denunciare qui, io non denuncio nessuno. Si può denunciare questo qui per queste cose terribili che sta dicendo, delle porcherie inaudite che non si devono sentire. Sei tu che prendi sempre la parte degli altri, mai la parte. Ma quali altri? Stai difendendo una violenza inaudita. Vergognati. Ma quale violenza inaudita? Ce la faccio. No, siamo fatto tutti un corno. No, fumato, no. Tu vita. È l'unico modo che hai, schifoso. Certo, tu è l'unico modo che hai. sarai sicuramente anche brutto come uno stocca fisso schifoso. Ma mamma mia, uomo che è andato in discoteca tu sei io sono andato un sacco di volte in discoteca, non ho mai avuto bisogno di fare. No, aspetta Diego, riprendi il telefono in mano e basta con sta tosse, riprendi il telefono in mano. Allora no, perché l'hai messo male un'altra volta. Allora la cosa che ha detto Diego dalla provincia di Roma è questa, molto chiara. Ha detto una cosa è il fatto che non devono farlo perché erano in servizio, e poi dici però una cosa gravissima. Dici però il fascino della divisa, la virilità è viva, non hanno fatto i froci, ce le sono scopate. Ma che sei scemo sei? No, no. Come no? Tu dici che hanno sbagliato tutta la parte che riguarda la cartella, i carabinieri in servizio eccetera, quello vanno puniti perché sono due coglioni. Dal punto di vista del rapporto sessuale, prima di tutto va dimostrato che è uno stupro. Prima di tutto. Quindi non è uno stupro. E poi secondo te se la sono fatta hanno fatto bene perché non hanno fatto i froci. Così hai detto. Ma viva Dio, ma scusami, le studentesse che arrivano in Italia, quante vogliono trombarsi in Italia? Ma cosa vuol dire? Ma che c'è? Ma tu sei scemo proprio. Ma lei è di una volgarità unica, ma stiamo scherzando. Ma quanto è volgare questa persona schifosa? Un uomo normale, nella sua giovinezza, va a caccia di turisti. È semplicemente schifoso. Posso dirti, è semplicemente schifoso. Mi auguro che la procura sentendo questa cosa qui lo denunci per dire non si può neanche no. Che hai detto? Diego non si può neanche non si può dedicare un po' della propria vita al sesso e alla ricerca del sesso quando si è in età virile, giovane e mascolina. Poi gli italiani sono fantastici amatori, riconosciuti in tutto il mondo, e chi si deve trombare? Un'americana, un danese, uno del Bangladesh? Ma sarà uno vero, no? Uno vero sono gli italiani. O vogliamo perdere anche questo, cosa, il nome del punismo, del benpensantismo? Ma cosa c'entra? Ma se li sono trombati? Allora, però, mi sorge il dubbio dalla voce che ho sentito, caro Parenzo, che questo Diego in realtà sia il solito Diego Volpe Pasini, il mitico Diego Volpe. O sbaglio? È ovvio, Diego Volpe Pasini non è una figura, è lui, Diego Volpe Pasini, che sostiene la virilità italica. Hanno fatto bene a trombarsene, eccetera, eccetera. Arrivederci, bella raga! Vattene, Satana, vattene, Asmodeo. Asmodeo. Di Parenzo, Asmodeus, di Parenzo. A me mi piace Osticchio. Sei Asmodeo, sei. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. A tavola! Che pizza! Roncadin! Che pizza! Roncadin, nel banco freezer! Vi presenta La Zanzara. Parenzo parla degli immigrati che non li ha mai visti! Non li ha mai visti! Come non li ho mai visti io! Ce l'ho qualche volta per strada, ma in macchina, la mia bella berlina, quindi a me degli immigrati non me ne fotte un cazzo! Vieni a Messina dal sindaco del cazzo quale abbiamo, con la gente che caga e che pisce in mezzo alla strada, e non ci si può dire niente. Le aiuole, i parchi giochi dei bambini presi d'assalto di questi pezzi di merda che non fanno un cazzo dalla mattina alla sera, e io mi spacco il culo e pago le tasse per questi qua. Ci siamo rotti, coglioni, hai capito? E fortunatamente ancora non ci sono messi in testa di inchiappettare gli uomini, perché se tu non ti fai inchiappettare sei razzista, perché ti neghi a un negro, hai capito? Ancora così arriviamo. L'Italia è una merda. Sono andato in Spagna, non c'era un cazzo di extracomunitario in mezzo ai coglioni che cagava e pisciava nelle aiuole, non ce n'era uno. Qua siamo pieni, qua ci cagano il cazzo e ci cagano pure nella strada. Venite a Messina, nell'aiuola di fronte al Royal, guardate tempo stretto, guardate quello che c'è. Vieni, te li faccio vedere, ti metti sdraiato e ti cagano di sopra. Questo è quello che dobbiamo sopportare. Salgono sugli autobus e non pagano. E se gli dici qualcosa ti alzano pure le mani. A me no, perché fortunatamente faccio pugilato. Vorrei che qualcuno mi cagasse il cazzo. Poi parliamo di legittima difesa. Li prende a calci il culo fino in Africa. Ci siamo rotti il cazzo! Puoi questo era il signor Mauro da Messina. Nuovo parente di Mauro da Mantova. Mauro da Messina. Ma saranno parenti, evidentemente. Ti voglio raccontare una cosa straordinaria che mi è accaduta, anche perché non è che possiamo parlare per due ore e mezza di stupri, ne parleremo a lungo, naturalmente. Però mi è capitata una cosa molto strana sabato, straordinaria, anzi sabato, dove sono andato al Vintage Festival insieme al professor Maurizio Bossi, sessuologo. Sì, so che eri a Padova, mi hanno chiamato in città perché mi hanno detto che ti hanno avvistato. Esatto. C'era un odore pazzesco, mi hanno detto. Beh, odore profumo, stai perché dicendo. Perché non ti lavi, no, odore profumo. Pazzesco. Mi ha chiamato anche un collega del Mattino, ha detto che è stato molto simpatico. Ho visto una tua intervista video anche sul Mattino di Padova. Sì, vabbè. Comunque, al di là di questo, ti voglio dire una cosa. C'era insieme al professor Bossi anche il professor Carlo Foresta. A un certo punto parlavamo di sesso. Carlo Foresta, simpaticissimo. Allora, che è successo? È intervenuta una sessuologa di Treviso durante questo dibattito, c'era l'aula piena. Questa sessuologa ha raccontato un episodio incredibile. Ha detto: una volta ho avuto due pazienti, una coppia, uomo e donna, marito e moglie, oppure compagno e compagna, non lo so che status avevano, i quali a un certo punto hanno detto: noi abbiamo delle difficoltà a concepire, perché sa, la penetrazione non ci viene bene. E lui dice: ma come mai? Perché sa, indicavano l'ombelico, cioè questi tentavano la penetrazione nell'ombelico. Io non ci volevo credere, cioè questi due avevano problemi ad avere figli, ad avere a concepire, perché in realtà tentavano la penetrazione nell'ombelico. E non era un gioco sessuale, caro David, proprio non avevano idea, non avevano idea. Ma cosa? Una cosa, un racconto pazzesco, cioè abbiamo riso, è stato straordinario. Una sessuologa di Treviso mi dovrebbe chiamare, purtroppo poi sono scappato, mi sono dimenticato di trovare il numero, di recuperare il numero, e ci dovrebbe chiamare per raccontarci esattamente. Ho detto: mi dia il numero di questi qua che per una vita volevano fare figli ma tentavano di trombare nell'ombelico. Lui tentava di trombarsela nell'ombelico, caro David, nell'ombelico. Va bene, andiamo a Firenze. Alessia, vai. Oh, Giuseppe, ciao. Senti, volevo dire una cosa. Sì. Hanno rivelato che questa ragazza ha fatto anche la foto mentre era lì sul pezzo. No, forse un piccolo filmato, forse anche la foto, eccetera. Però, cacchio, se sei lì o filmi un'altra cosa, o, cioè, se hai avuto tutto questo tempo, cioè, potevi anche scappare invece di stare lì, perché in fondo all'ospedale li hanno trovato, sì, che hanno avuto un contatto, un rapporto sessuale. Però... non hai lividi, non hai ematomi, cioè non è che è stata presa con forza e attaccata. Scusami, al muro, però, Alessia, dunque manettata. secondo te non c'è stato stupro? Non c'è stato stupro. I carabinieri già si conoscono per le barzellette, per la, insomma. Ma quello non c'entra nulla, allora? No, nel senso, secondo me hanno torto, perché non dovevano far salire nessuno nell'auto di però servizio. Secondo lei non è stato stupro? Ma secondo me no, anche cioè, questo, uno di loro ha confessato che è stata non ha confessato nulla, ha detto che è stato rapporto consenziente. Consenziente, sì, ho capito, confessato. Però uno a un certo punto, siccome si entra in una dinamica in cui c'è un processo, sì, c'è un procedimento. Sono i carabinieri, perché se a Firenze tu ti invito a venire in centro, vai la sera, la gente tromba nelle panchine, cioè da tutte le che parti. Che scenario, centro, ma adesso signora, ma se fosse così, aspetta, ma che vuol dire questo, Alessia? Spiegami. No, Crociani sarebbe già lì se fosse vero questo. Di tutto, basta andare qui alle cascine, una cosa. Signora mia, ma lei sta non descrivendo di la città come fosse YouPorn. Ma lei non è, sta non ti dico le cascine che è un punto di prostituzione. Ma se fosse così, Crociani condurrebbe la radio da Firenze. Infatti, sessuali all'aria aperta, in mezzo in una panchina davanti a un monumento. Ma tutto questo è straordinario per me. Appunto, ma questo sarebbe una cosa straordinaria, sarebbe bellissimo. Però, se fosse la città delle scopate, se fosse la città del sesso all'aperto, sarebbe straordinario. Che ne dica il sindaco Nardella, il quale sindaco. Aspetta, il sindaco Nardella ha fatto anche una dichiarazione assurda, questa, mentre c'era in ballo la possibilità di uno stupro, i carabinieri eccetera, sì. Questa non è la città dello sballo, sì, però caro sindaco, c'è un problema un po' più grave dello sballo in questo momento, perché qui li fanno, hanno fatto il trio Rossi, e poi che male c'è Nardella. Ma eh? Che male c'è se fosse la città dello sballo e della scopata? Sarebbe straordinario, sarebbe stupendo. Vabbè, parte ma che non è così. Perché sono stati due gnocchi di carabinieri. E che c'entra? Se era uno qualunque, a chi non è successo andare in discoteca, uscire con quello, hai bevuto, tutti hanno bevuto. Poi, fra l'altro, non difendendo lei sta assolvendo i carabinieri, a parte le ragazze, ma a Firenze bevono queste ragazze americane, allora? Bevono da sempre, allora? Le loro mamme, le loro nonne, perché è nel DNA. Bevono. Io conoscevo allora? Un parente mio lei che imbroccavano le americane sul Ponte Vecchio, si facevano simpatici tipo allora? Quelle storie di Mastroianni e rimorchiavano le americane perché sono sempre state donne più avanti a noi, più avanti di cosa dice? Ma non è vero. Ma perché questi luoghi comuni? Ma cosa dice? È vero che la maggior parte di questi fiorentini, signora mia, se a lei signora nessuno le si avvicina, manco con la canna da pesca. E poi hanno avuto figli e poi sono tornati qua in Italia. Che stai dicendo alla signora? No, dico che alla signora non le si avvicinano neanche con la canna da pesca, quindi evidentemente è invidiosa delle americane. Ma che invidiosa? Signora mia, a lei non la sfiorano neanche con la canna da pesca. Lo fai volentieri, perché ecco, la vedi, questa c'ha una fame, te lo dico io la verità, questa c'ha una fame da paura, siccome non la tocca ovviamente nessuno, perché aspetta, sarà guardia giurata, comunque la signora è evidentemente un gesso a pedali, non so. Ma la fai parlare, non vi accavallate. Allora Alessia, stai ad ascoltare pure Parenzo, ha detto che sei un cesso a pedali, è basso perché ho spento la radio, ha detto che sei un cesso a pedali, ma sicuramente, perché parla così. Ma no, sono anche una bella donna, ma questo chi lo dice? Le donne io le difendo, però sì, in questo però caso, sta al telefono con noi, perché evidentemente lei è gelosa. Tutti i torti che hanno fatto i carabinieri per una serie di questioni, giustamente allora? Però insomma non credo sia stato a Rimini, c'è stato lo stupro, l'hanno retto in quattro e l'hanno violentata, ma questi sono stati 20 minuti, non hanno fatto neanche una sveltina, perché in 20 minuti che la macchina è stata parcheggiata giù, cioè questa li fa la foto anche alla fondina e fa fatto la foto al pisello, almeno ci dava la prova concreta. Sì, signora Alessia da Firenze. Quanti anni ha sta signora? Io ce n'ho 59. Signora mia, lei ha 59 anni, si deve fare. È sposata? Curare, è sposata? No, c'ho il mio amico, no, ognuno a casa sua, però sì. C'ho il mio uomo normale. Ma figura, c'è il suo che ha il suo fucker, certo, il suo fucker. Certo. E certo che faccio stesso, e che sto qui a parlare con voi. Ma figurati, signora Alessia da Firenze, saranno anni che non vede l'azienda, ma figurati. Ora aspetteremo la risposta di tutto quanto, però sicuramente. Signora Alessia. Poi gli americani hanno i soldi e poi sembra che ci avessero questo. Anche l'assicurazione. Ma questo è stato una cosa storia, ma basta, ma ancora con sta storia. Comunque ragazzi, signora mia, mi dia retta, sì. Lei non ha nessuno, lei è sola, è no, tanto no, che no. Non vede l'azienda. Ha detto che non è sola, se lei ha detto... non vuol sapere, ce n'ho due, c'ho anche la riserva, se per a due io, ragazzi dai, io sesso lo faccio e tranquillamente non figure. È invidia, oddio, un carabiniere me lo farei volentieri. Ma ancora la terza volta che lo dico, ma perché ci vuole fare questa, te lo dico, c'ha una fame che non è neanche idea. Li difendo anche. Ma io spero che il fidanzato la senta. Guarda un po', questa c'ha una fame. Io ho questa molta c'ha stima. Una fame che manco. Io ho molta stima per i carabinieri, perché sono veramente dei militari. Ma sono perché si farebbe un carabiniere? Perché si farebbe un carabiniere? Non ho capito. Perché hanno una marcia in più, sono particolari, sono corretti. Cioè, te parli con un carabiniere, stai in posizione da te. Scusi, ma lei ha 59 e che vuol la dire? La mano dietro la spalla, ti parla, non mastica la gomma, non c'ha gli occhiali, cioè ci sono altri forze dell'ordine che ci va a parlare, fa ma io non ho mai visto tanti luoghi comuni in 5 minuti come qui. Ma c'è una classe, sono militari. Per scusi, cui ma lei ha 59 anni, quanti rapporti sessuali ha settimanalmente? No, uno o due, dipende da uno o due settimane. Beh, uno buono, uno o due settimane è buona, una buona per cosa. Per cui non sono frustrato in questo senso. Capito? Però effettivamente mi sembra esagerata la storia qua. Vabbè, amica mia, ti ringrazio. Se mi avessi violentato un carabiniere, io non avrei fatto denuncia, in poche parole. Ma questa è una stronzata, dai, su, ma che vuoi? Ma che ne puoi sapere? No, non è violenza, per me non è violenza. Perché Giuseppe, perché non si è messo a strillare? Ma perché magari avevano paura? Ma magari, che paura? Magari, ma paura di che? Sembra che non abbiano strillato, non abbiano detto nulla perché hanno paura delle pistole. Dai, paura delle pistole. A te invece ti eccitano le pistole. A te ti eccitano le pistole, hai detto. Io ho paura. No, io la pistola, cioè io le pistole non l'ho mai neanche vista. Però dico, invece di fare la foto alla fondina della pistola mentre lui la cosava, poteva. Ma che sei l'ispettore Clouseau? Ma che ne sai dei dettagli? Ma che sei l'ispettore? L'hanno detto. Chi l'ha detto? L'hanno detto, meno male che ogni tanto meno male che qua, che c'è il TG regionale in più di quello nazionale, andiamo oltre, fermi tutti. Allora, il vostro programma, tra parolacce, cazzo, vaffanculo, innanzitutto è di basso livello. La radio la fai tu, sei tu il fenomeno. Fenomeno. no? Io non ho capito una cosa, ma che c'entra? Fenomeno sarai tu che guadagnerai 3-4 mila euro al mese, non io. Siete dei volgari e ignoranti. Questo è arrivato non... lui, Ivan. Non è sbagliato. È arrivato il censore Ivan. Frate, fammi fare il fenomeno. Fenomeno. Vergognate. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da. Per gestire le risorse umane ci vuole experience. Scoprila su inaz.it. La Zanzara. Un uomo che violenta una donna o comunque che in genere commette violenza è un miserabile, che sia bianco, nero, giallo, viola. Sono cose che non dovrebbero esistere, quindi è inutile che tanti lamentino, è un gesto deplorevole. Poi che sia provato, questo è un altro discorso. Però cioè, se l'hanno fatto i carabinieri, non li metto né sopra né sotto quei miserabili che hanno commesso quell'atto di violenza a Rimini. È scandaloso. Anche fossero state consenzienti, queste due, i carabinieri vanno messi in galera, perché anche se loro si sono fatte accompagnare e gli hanno detto venite su e loro ci sono andate, vanno messi in galera. E no, perché sono peggio, questi due sono peggio dei quattro neri, sono peggio. Allora, Cosimo da Firenze. Cosimo, vai Cosimo. Emozione. Dimmi Cosimo, dimmi. Allora, ascolta, io volevo dirti una cosa. Sottoscrivo 100% quello che ha detto la signora da Firenze. Sì. Sulle americane, Alessia, il comportamento, sì, in città. Va bene, stavo a vedere. Ma che vuol dire, no, le americane, il comportamento comunque, in città? Possiamo, no, smettere con questi luoghi comuni? No, Firenze, possiamo smettere, aspetta, con aspetta, bestialità? Aspetta, aspetta, Cosimo, io voglio capire. Non ho capito qual è il problema dell'atteggiamento delle americane. No, non è un problema, assolutamente. La loro attitudine, diciamo. E quale sarebbe l'attitudine? Non ho capito. Che si vogliono divertire, vanno in discoteca, trovano uno e se lo trovano, non è un problema. Sì, vabbè, d'accordo, ma questo non mi pare una cosa così tragica. Forse, a parte che non si può generalizzare. No, infatti stavo dicendo che è giusto, cioè, è corretto. Parenzo, se... Vabbè, Cosimo, però scusa un attimo, cerca di mettere bene il telefono oppure l'auricolare, togliere, perché... No, se... non c'ho l'auricolare, mi senti? Vabbè, allora dimmi. Volevo dire, io ero presente. Come eri presente? Eri dentro il flow? No, durante... No, no, vabbè. Eri al flow quando sono arrivati i carabinieri? Esatto. Praticamente sono arrivate tre gazzelle perché c'è stata una in precedenza. Sì. E i carabinieri sono fermati al bar a prendere un caffè con i buttafuori a fare due chiacchiere. E questo l'abbiamo già letto. Ma è vero che, scusami, questo l'abbiamo saputo. No, volevo confermare. Ma è vero che alcuni carabinieri si sono messi a parlare? No, questo è interessante. Se era presente lì, Cosimo, se è vero, sì. Teniamo. No, certo. Però sicuro al 100%. Guarda, non è, no, non è, no, va bene, per carità. Allora, tu hai detto intervengono i carabinieri, questo l'abbiamo saputo. Intervengono i carabinieri perché c'era una rissa. Ma era una rissa importante oppure no? No, no, era una bischera. Però vabbè, sono arrivate tre gazzelle e loro si sono messi a prendere un caffè. Dopo erano le 3:15, mi sembra più o meno. Ok. Ero sul divanetto spiaggiato, messo lì a vedere la scena. Bene, è vero che alcuni carabinieri sono messi a parlare, pare questi qua. Che esatto, poi... volevo arrivare proprio io. Dimmi, volevo arrivare proprio dimmi. Lì. Cioè, loro erano al bar e sono arrivate loro. È arrivato uno stamo di ragazze americane, sì, tutte estasiate, tutte prese dai carabinieri, e sono messi lì a ragionare con loro. Cioè, non ho capito adesso, questa qua è la tua interpretazione, naturalmente. No, cioè, no, tu stai dicendo c'erano i carabinieri al bar. Agli occhi, ci sono. Questa, loro hanno fatto il loro lavoro. Sì. E successivamente si sono fermati un attimo a prendere un caffè e sono arrivate queste ragazze lì e hanno iniziato a chiacchierare, a ridere, a scherzare, giustamente, ma tutto ok. Cioè, è chiaro che dopo quello che è successo è una cosa normale, lo stupro per me è inesistente, cioè non credo che... Cioè tu stai dicendo che i carabinieri sono rimasti lì dopo avere, diciamo, controllato quello che c'era da controllare, la rissa o non rissa, eccetera, certo, eccetera, sono fermati a prendere un caffè. Quanti erano sti carabinieri? Erano sei, perché erano tre gazzelle. Erano sei carabinieri, però dunque tu non sapresti, diciamo, dire chi è rimasto poi là, i due carabinieri? No, assolutamente. Vabbè, comunque, sono arrivati, tutti e sei erano lì al bancone del bar? Sì, erano lì, con i buttafuori e probabilmente anche il gestore a prendere un caffè, a fare due parole. Sì? E niente, c'erano dei ragazzi, sono passati di lì e sono fermate loro. Cioè, appena hanno visto i carabinieri, le ragazze... No, appena hanno visto, insomma, si sono fermati, questo, cioè, proprio 100%, le hanno approcciati loro, 100%. E poi? Basta, no, niente, poi solo questo hai visto? I cazzi miei, loro erano a farsi i cazzi loro, cioè. Hai visto solo questo? Non lo so, però è chiaro che il contatto iniziale Non è sicuramente del carabiniere che va a provarci con l'americano ubriaca, è il contrario. Senti, ma queste americane o comunque queste ragazze qui erano tutte ubriache su di giri? Quelle là che hai visto? Vabbè, tu? Certo, cioè, sì, erano come tutti, pure te ubriaco, mi sa. No, vabbè, altimici, dai, è normale. E gira marijuana dentro quel locale? No, assolutamente. Beh, una di queste ragazze pare che fosse fumata. Aveva fumato prima. Dunque, non gira droga dentro questo locale? No, quello no, assolutamente. Va bene, Cosimo, ciao. Allora, Marco da Trento. Sì, ciao Giuseppe. Io volevo partire con il mio intervento. Sì, però ragazzi, vi dovete far sentire. Aprite bene sti microfoni, mettete bene la bocca sulla cornetta, levate tutti gli strumenti che avete, sennò non sentiamo un cazzo, dai. Forza, Marco. Allora, ciao. Dai, forza. Io volevo partire col mio intervento dicendo praticamente che sono... Io mi sento un razzista, non lo sono mai stato dalla nascita, ma lo sono diventato proprio perché... Eccolo qua, quello no, che no, è il privilegiato, soltanto... no? Non ho capito. È il privilegiato qua, è il privilegiato che ho soltanto sbuffato, no? Un attimo. Che vuol dire sono diventato un razzista? Perché tutta la gente che ci hanno portato in Italia senza chiedere niente a nessuno, perché non hanno chiesto se li vogliamo o se non li vogliamo, a me danno fastidio negli atteggiamenti, nel modo, nella loro cultura, nel suo modo di pregare, negli loro sguardi. Ma che fastidio che ci siano persone così. Che vuol dire ti danno fastidio gli sguardi? Che fastidio che ci sia gente così invece. Pensa la tua democrazia, sai dove te la puoi mettere la tua democrazia? Tu devi essere democratico anche nell'accettare l'opinione degli altri. Infatti, che tu non qua. Accetti i miei. Certo mai che l'accetto, sono qua a sentire queste stronzate. Però ma certo che la ci mancherebbe altro. Il pensiero razzista va criticato, va combattuto. Certo, ma anche ma che senza te, dubbio. Ma anche la tua cultura va criticata. La mia è una cultura democratica. Io non ho capito, Marco. Sua. Tu, però, hai esordito dicendo: io sono diventato, mi vanto quasi di essere un razzista. No, benissimo. Sì, certo. Cioè, il razzismo è una cosa un po' più nobile di Marco da Trento. Significa proprio il disprezzo dell'altra nobile, razza. No, il considerare inferiore. Il considerare inferiore. Esatto, bravo. È così, che cazzo è? Io considero inferiore a chi viene qua cercando fortuna e invece di apprezzare quello che trova lo disprezza, va nelle chiese, distrugge i monumenti. Ma veramente, non sembra che la gente lo fa. Che non sembra che la gente vada nelle chiese a distruggere i monumenti. Ma cosa guarda? Lo fanno, ma no, ma adesso ma è successo, scusi professore. Cioè tu dici per esempio che quel tizio là oggi circolava un video, quel senegalese o non so che ma cosa, quell'extracomunitario che non vuole pagare il biglietto e prende a male parole un controllore sulla metropolitana di Roma, per esempio, di ti sta sui coglioni questo atteggiamento. Certo. Dunque, questo ti fa diventare un razzista. A me non piace nessuno che paga il biglietto, che c'entra? Cioè, ma anche chi viene qua e prende dei privilegi che per loro sono dovuti. Quali privilegi? Sono dovuti. Cosa ma, per dice? Esempio, avere le case popolari. E chi è che dà è le una case cosa popolari? Dovuta? Uno viene qua. Ma infatti non hanno le case popolari. Infatti non hanno le case popolari. Giusto, vengono qua, lavorano. Beh, diciamo, nelle case popolari, nelle graduatorie delle case popolari, moltissimi extracomunitari vengono prima degli italiani. Non è... Sì, dipende se hanno diritto, vengono. C'è una legge. C'è una legge. Ma è una legge sbagliata. La legge è sbagliata. Legge sbagliata o è... Ciao Marco, Paco, Belluno, eccolo qua, Paco, spada di fuoco, dimmi. Ma chi è questo? Il figlio o il nipote di Mussolini? Sì, addirittura. Bravo, Marco, Paco, ci sei ancora o no? Marco? Sì, ci sono. Ecco, ma vai. Sei fuori di testa. Ma Cruciale, tu non hai vergogna. Tu bravo, non provi Paco, vergogna. Bravo, ma io che c'entro? Grazie, Paco. Sei l'Italia migliore, grazie, Paco. No, volevo solo dirti grazie perché sei l'Italia migliore. Grazie. Scusami, grazie. Ma ciccia con Paco, sei. Attacca. Ma tu sei una persona che non prova vergogna. Tu non bravo. Hai vergogna. Ti stai arrampicando su specchi. Vai. Ti stai arrampicando sui specchi. Perché bravo. tu sei tu ospiti spesso col stronzo di Feltri, no? Che scrivi tutto quello che vuole, bastardi islamici. Ma perché non scrive bastardi carabinieri? Rivolta ai due carabinieri che sono stati ai coglioni. Questo deve essere la cosa lui, che cazzo vuoi da me, scusami. Ma la va a fanculo quel pezzo di cazzo, la cosa che dico a questo qua. Quando lo vedo per strada non lo guardo neanche. Ma chi? Ma tu? Ma Feltri, tu manco ti fanno avvicinare alla macchina di Feltri, arrivano due energumeni. Due energumeni che Feltri, ti buttano fuori. Ma vai a fanculo te e Feltri e tutti quanti, andate a farvi. Guarda, ma cosa, Paco? Perché sei così avvelenato? Paco, spada di fuoco. Non mi fai arrabbiare, perché? No, no, tu non mi fai arrabbiare. Hai usato poco la spada di fuoco, mi sa, in questo periodo. Hai usato poco la spada di fuoco. Questo è il punto fondamentale. Sei frustrato dal fatto che hai usato poco la spada. No, questo. Frustrato sarai tu. Ma Paco, ma cosa, perché cosa sei intervenuto a fare oggi? Dimmi, qual è la cosa che ci devi dire? No, io ti stavo dicendo, no, appunto, se mi lascia parlare, se sì, fai lo stronzo, non mi fa parlare. Cioè, bravo Paco, fa rispetto tu sempre, diritti, tu, ma tu hai toccato il fondo, perché tu hai dimostrato di essere uno stronzo, un razzista di merda. Tutto vero. Ma in che cosa? Spiegami in che cosa, spiegami. Paco, bravissimo. Allora, male che l'Italia migliore. Allora, perché quando parla quando l'Italia due migliore? 19:44, no? Grazie. Non posso dirti grazie, Paco, però. Stracomunitari fanno. Ma bravissimo. Anche tra di noi ci sono, tra noi stranieri. Certo, no? Tra comunitari ci sono gente giusta, c'è gente, certo. Ci sono i banditi, ci sono i delinquenti, c'è tutto quello che vuoi, c'è il misto. Certo. Ecco, certo. Allora bravo, uno che fa una cosa che non è giusta, basta solo prenderla, mettere allora? In galera e buttare via la chiave. Allora? Ma non buttare fango addosso a tutti i stranieri che devono andare via. Bravo Paco, grazie per aver chiamato Paco. Grazie. Tu devi fare solo Paco. Un discorso molto semplice. Questi sono stati molto semplici. Dire al tuo amico Feltri, quando l'ho ospite un'altra volta, no? Sì, sì. Che non avete avuto le balle a scrivere bastardi e carabinieri. Cioè, tu stai suggerendo ai signori di Libero un titolo. Bastardi, ma cosa cazzo c'entra due carabinieri che hanno forse stuprato delle ragazze con gli attentati? Con gli attentati, spada di fuoco, riprenditi, spada di fuoco, riprenditi. Penso che sei altro, ma dai, penso che sei altro. Quando sei insulto, non sei contento. Grazie per la tua riflessione, Paco. Grazie, stronzo che sei altro. Bravo, quando si tratta di noi, allora. Quando si tratta di noi, ma voi chi? Noi neri, anzi, tutti dicono una cosa. Io, tu che? Paco? Allora, adesso, da tu che? Poi, bravo, una Paco, volta grazie, tu dire, sei molto ti riflessivo. Hanno dato, i forosi ti hanno dato l'autorizzazione di chiamarli forosi. Chi? Noi, tu l'hai detto. Sì, posso tranquillamente allora, chiamare. Noi neri, non ti diamo l'autorizzazione di chiamarsi negri. No, io ti chiamo negro tranquillamente. Cioè io ti chiamo negro senza problemi. Ma io non ti voglio mica offendere a chiamarti negro. No, tu lo fai per difendermi. No, assolutamente no, sì, ma figurati, fai, non sono no. Tutto il tranne che razzista. Paco, il negro di Belluno. Paco, il negro di Belluno. Ma io lo dico in senso positivo. Ma non puoi che denunci cosa? Non ti sto dicendo. Ma non ti voglio sei impazzito. Ma perché? Perché comunque argomenta in modo civile. Grazie Paco. Bravo. Scusa, ma quell'altro c'è ancora? Quell'altro che ha detto di essere razzista da Trento, no? Perché c'era una battaglia da fare col signor Paco. Ma battaglia che col stronzo là, quello che battaglia vuoi che faccia quello stronzo. Signor là, Paco, che devo fare? Vorresti per esempio fare una bella battaglia con il signor Donato da Varese per caso? Ma non ci penso minimamente col stronzo là che non sa neanche parlare, che si mette là. Ma fammi piacere. Non sa neanche parlare con lo stronzo. Oppure là, con il signor Mauro da Mantova. Ancora peggio. Oppure con il signor nuovo che abbiamo conosciuto da poco, il signor Mauro da Messina, per esempio. Ancora peggio, io non parlo con quella persona là. Ancora peggio. Bravo, ti ci faccio parlare. Sono là, sono come te. Senti. Sei uguale, sto parlando con te, basta. Senti, io sto parlando con senti. Te, tu sei come loro. Ma che sono come loro, Paco? Senti, tu io adesso non ti voglio rispondere bene perché sei sembri quasi un comico, diciamo la verità. Cioè, sei un comico. Sei tu che sei un comico. Sembri quasi un comico. Fare il comico. Tu sei quando dici così, sei un'emerita testa di cazzo. Perché io ti do la possibilità di raccontare tutto, anche la tua vita. Sono favorevole. Sono favorevole. Sì, la spada di fuoco, i testimoni di Geova, la figlia che ti hanno tolto. Ma che vuoi? Nient'altro da dire, ma vai a cagare. Ma cosa vuoi? Da me, non ho capito cosa vuoi. Cosa vuoi no, da me? Sei un gran testa di cazzo. Tu non provi vergogna. Tu non hai ma di che cosa non trovo vergogna? Delle mie idee, no? Non trovo vergogna, no? Delle mie idee, perché tu sei abituato ai tuoi paesi dove non la democrazia, non sai nemmeno quello che cos'è. Non sanno quello che cos'è. Vergogna. Sei una vergogna, testa di cazzo. Vergogna. Aspetta, fermo là. Fermo. Paco. Antonio da Pescara. Aspetta, fermo là. Aspetta, ti voglio fare combattere con Antonio da Pescara. Vediamo se Antonio da Pescara. Non penso minimamente che la va a cagare. Antonio Luca. Ma che ne sai? Che ne sai? Pronto? Ascolta. Buonasera. Antonio, buonasera. Cosa vuoi dire a Paco? Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo e buonasera Paco. Sì. Paco, c'era un vecchio adagio che diceva: io rispetto talmente le tue idee che io andrò in galera e morirò perché tu le possa dire. Bravo Antonio. E questa sera sono intervenuto non per fare il professore, perché li ho sempre odiati, perché mi mettevano sempre quattro in italiano anche se studiavo. Bravo, ma questa è una battuta per dire questo. Io appartengo al terzo tipo di dimensione umana, che è quello che è nipote di emigrante. Mio nonno è stato 8 anni prigioniero in Libia e in Inghilterra, ha imparato l'inglese e mi ha sempre detto e mi ha sempre detto: dove vai prima di parlare, di dire le tue cose, impara. Penso. Questo non è per Paco, io sto parlando per me. E allora non è neanche, dire questo. Non è neanche, neanche un adagio, peraltro. Sì. Ma è Voltaire, no, volete questo, Parenzo, chiedo scusa. Sbagliato. Siccome tutto mi ha travolto di parolacce. Tutto grossier, tutto detto male. Vabbè, allora? Tutto Wikipedia, tutto googolato. Vabbè, allora? Lei dice minchiate. No, vabbè, parla a parlare. Ho capito, con lei, con me. Ce l'ho, con lei. Sì, ah, mi sta scrivendo Antonio? Il grandissimo Benedetto Sacerdoti, che è una persona di cultura, ovviamente. Che vuole, segue, Benedetto Sacerdoti. Ma che mi segnala e dice: ma c'è, cioè, tu grossier, c'è gente che chiama. Questo allora? Per Benedetto, e non allora? Chiama, no, guarda, questo, segue, Parenzo. Però sa tutto. Ma no, Parenzo, non dire neanche il mio nome. Mi fa schifo che il mio nome venga pronunciato da gente come lei. Mi fa orrore. Ma non mi chiami lui. Ma no, ma sì, mi faccia questa cortesia, mi chiami lui. Vabbè, Antonio, cosa vuoi dire? Non dai, Giovanni, il nome, lo sporca, lo sporca. Sono stato in Germania a novembre. A novembre, e ho fatto una riflessione da italiano. Una riflessione ha fatto. Ma vabbè, che riflessione ha fatto? Qual è la riflessione? Riattacco, non voglio andare a detrimento. No, ma qual è la, qual è? La riflessione è questa. È tre ore che devi parlare di riflessioni, dai, forza. No, via. Quella che volevo fare io, che mi ha indotto alla discussione, era questa. Che quando io vado in un paese straniero, io non mi sogno di non pagare il pullman, di prendere a schiaffi l'autista del pullman o di offendere il popolo che mi ha ospitato. Come io, quando sto nel mio paese, non mi permetto di offendere chi viene. Il problema è questo, ragazzi, che come Parenzo sta dimostrando, e diceva Pasolini, che quando io ho lo strumento della parola, come adesso, comando io e conduco io il gioco. Dico, e allora che vuol dire? E quindi chi sta ascoltando è costretto ad ascoltare. Ma se qui tutti rubiamo in Italia e nessuno vuole più rispettare le regole, dai genitori fino agli insegnanti. Vabbè, Antonio, però, ma, però devo allora, dirti la verità, dire questo, che sto pippone già mi ha rotto il cazzo. Fermo un attimo, sì, amico mio, mi hai rotto i coglioni, scusami. La Zanzara. Tu sei una pezza di merda, sei. Allora, ti dicevo prima, David, di questo signore, di questo signore che è un esponente della, del partito di Adinolfi o del giornale di Adinolfi, che si chiama Fiani, Filippo Fiani, redattore del quotidiano, del Foglio, che si chiama La Croce. La quale ha scritto: in effetti io sono più d'accordo con il fatto che le americane siano due zoccole che hanno adescato due bischeri in divisa per poter riscuotere l'assicurazione e farsi viaggio in Italia a gratis. Vai! Pronto? Sì, Fiani? Sì, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Cruciani, Radio 24, salve. Salve. Ciao. Mi risulta che tu abbia scritto qualcosa sulle americane, giusto? Guarda, pazienza, io sto alla riunione della scuola dei bambini, non sento niente. Ho capito, pure ma hai scritto che le americane sono due zoccole, così? No. Sì, come no? In effetti io sono più d'accordo con il fatto che le americane siano due zoccole che hanno adescato due bischeri, eccetera, eccetera. L'hai scritto tu? Ho scritto una cosa che è un'ipotesi, non l'ho detto. Ma come un'ipotesi? Che vuol dire l'ipotesi delle due zoccole? Qual è l'ipotesi, scusami? Dove sarebbe l'ipotesi? Ma non ho capito, ma chi sei? Io mi chiamo Cruciani, e Radio 24. Ah sì, ciao, sono da Parenzo. Ciao, ciao. Eccoci qua, caro. Allora, richiamamelo questo, va. Richiamamelo sto fenomeno qua. Filippo Fiani. Pronto? Fiani. Oh. Allora? Eccoci. E tu mi chiami nel momento più importante della mia vita. Sono l'asilo, alla scuola dei ragazzi. Ho capito, vabbè, ma la scuola, avevo capito ieri. Ma a me che me frega della scuola dei ragazzi? Cioè, scusami, dimmelo direttamente. No, ma per me i ragazzi sono importanti, quindi io bisogna che faccia le cose. Sì, però le ragazze americane, le ragazze americane si possono definire zoccole tranquillamente, senza problemi. Saranno importanti i ragazzi, però le ragazze. Non volevi parlare delle minacce di morte che ho ricevuto? Ma non me ne frega niente. Sa quante ne ricevo ragazze io di morte, le minacce di morte sono sempre negative, però chi se ne frega? Le minacce di morte sono negative molto di più di un'affermazione teorica fatta sulla base privata di una discussione tra persone che si conoscono, allora, e che viene estrapolata da un contesto, Filippo, e non viene preso in considerazione. No, fermi mi tu. Hanno detto che mi vogliono crocifiggere. E vabbè, Filippo, mi hanno detto che io devo usare la mia assicurazione sulla vita sperando che la usi al 100%, vabbè, cioè, ma, caso morte. Scusami, Filippo, abbi pazienza. Lo stai dicendo che ti hanno minacciato, ne prendiamo atto, farai le tue denunce, va benissimo. Io non minaccio di morte nessuno. Sì, però non fare. Sì, ma non fare. Scusami, Fiani, non fare il furbo con me. Tu hai scritto. Sono più d'accordo con il fatto che le americane siano due zoccole che hanno adescato due bischeri in divisa per poter riscuotere l'assicurazione e farsi viaggi in Italia gratis. Ora, o questa cosa qui è. Che cazzo c'entra a parte la cosa privata? A me non me ne frega. Ma se io sono al bar a parlare con i miei amici, uno dice una cosa, gli dico sono d'accordo con te. Ma l'hai scritto tu? Ma l'hai scritto? Ma a parte il fatto che non è da nessuna parte questa frase. Ho capito. Dai, tu non fare il furbo con noi. Ma perché? Ma perché l'hai scritto? Perché l'hai scritto? Perché l'hai scritto? Perché? Perché? Ma quando uno parla delle sue cose, parla delle sue cose. Io ma perché pensi che siano zoccole? Perché pensi che siano zoccole? Queste qua. Dimmelo. Se mia figlia un giorno facesse quello che fanno questi ragazzi, io la considererei in quel modo, ma non ti preoccupare. No, ho capito bene che cosa hanno fatto queste qua. Che cosa hanno fatto? Erano ubriache, forse qualcuna si è drogata. No, ma non sviare la cosa. Ma no, ma quello non l'ho letto, quello non l'ho letto. Io ho letto questo e lo leggerò. Intanto ho letto questo. Ma va bene, lo condanniamo, d'accordo. Queste persone mi vessano. Queste persone che Fiani, io non ti sto vessando. Tu hai detto quale sì, ma con me non devi fare il furbo. Gay.it mi fotografa. Vabbè, ma non me ne frega niente di Gay.it. Io non so. Ma io non sono gay. Sono un cannibale. Io non sono Gay.it. Ti sto dicendo. Tu le fotografie quando sono in macchina. Ti devi vergognare di avere definito queste due delle zoccole. Ti devi vergognare. No. E perché? Perché sarebbero zoccole? A parte che essere zoccola. Che mi vogliono uccidere. Perché sarebbero zoccole? Non me l'hai detto ancora. Perché sarebbero zoccole? A parte che per me zoccola non è un insulto, invece per te sì. Ma non ti posso stare a riportare 40 discorsi fatti tra persone tra ma perché sarebbero zoccole? Riassumilo. Perché sarebbero zoccole? Io preferisco dire che sono bischeri carabinieri. Sì, ma senta, lei ha scritto una corbellata. Lei ha scritto una stupidaggine per la quale dovrebbe semplicemente chiedere scusa e poi nascondersi, io penso, per almeno 365 giorni. Ma io posso anche chiedere scusa per le stupidaggini che dico, ma quello non è il problema, è che non sono stupidaggini. Il problema è quello che lei ha scritto. Ma me ne frego, il problema è che questa cosa è stata presa, estrapolata apposta, perché siccome io sono una persona che sta andando a giro con un libro che parla di adozione e che è in contrasto con il pensiero degli omosessuali. Ma che c'entra queste cose con gli omosessuali? Ma che c'entra? Hai definito due ragazze che forse sono state stuprate? Forse sono state, che molto probabilmente sono state stuprate? Le hai definito delle zoccole in senso negativo perché hanno. Perché siano poi. Che cosa? Non vivono poi in quelle condizioni lì. Quali condizioni? In quali condizioni vivono? Che hanno fatto? Ma perché? Che hanno fatto? Fiani, ascolta. Perché? Che hanno fatto? Hanno fumato? Hanno bevuto? E allora? Che ho detto questo io? Vabbè dai, vai a fare in culo, vai Fiani. Ciao. Vai a fare in culo. Del fatto che ti hanno minacciato, non me ne frega niente. Di morte. Sì, va bene, sono dei coglioni. Sono dei coglioni. Tu sei più coglione perché non hai nemmeno il coraggio. Non hai nemmeno il coraggio di. Non me ne frega niente. Non hai nemmeno il coraggio di ammettere quello che hai detto. Capito? Non hai nemmeno il coraggio. Sì, non hai nemmno il coraggio. La conversazione privata, eccetera. Ma perché? Spiegami perché bevono? Perché erano ubriache? Perché una aveva fumato? Per questo? Perché erano disponibili al sesso magari con qualcuno? Scusami, se una fuma e è ubriaca, è una zoccola? Ma senti, io lo dici te, scusa, mamma mia, ma io insisto, vai a fare in culo, vai a fare in culo, ciao. Meno male. La Zanzara. Wow. Fagiù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da fallotto 0024 0024 o fu se volete mandare un sfaccio i messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701. Ancora una notte di luna piena, le mie ragazze hanno gli occhi a mandorla ridotti come fessure, le narici dilatate, vogliono le loro prede. L'ultima notte di caccia prima della luna calante, e ancora una volta il cacciatore e le tigri dell'Asia hanno colpito. E adesso un saluto per Parenzo da parte di mia moglie lì, ma non ve lo tradurò. Parenzo, si non vogliamo perdonare. Era il mitologico cacciatore di Rom, il legionario di Messina. Non ho capito la signora che la le signora parole che ha usato. È una vietnamita, credo, una vietnamita, sì, che lui ha preso in sposa e ha portato in Italia. Entrambi pare che durante non so quale conflitto in Estremo Oriente tagliavano teste e uccidevano persone, e pare che continuino, questo è tutto da scoprire naturalmente, anche in Italia nei confronti delle varie comunità Rom che si trovano nelle zone sicule, capito? Sì, sì. Personaggio incredibile, incredibile, certo. Il cacciatore di Roma. E ovviamente dove l'abbiamo trovato? Qui in questo grande zoo. Ovvio. Zoo gratuito. Allora, il signor Vittorio Feltri ha scritto: confessione, ho fatto fatica a scopare quelle che la davano volentieri. Come potrei stuprare una che non ci sta? Vabbè, questo superiore dire alle mie forze. No, vuole dire effettivamente cosa c'è, però questo? Una provocazione. Come si inserisce questo del dibattito? No, politico? Perché Vittorione dice. Uno fa fatica pure a scopare con una persona consenziente. Figuriamoci. Ma parlate se per uno, voi. Se uno ma deve. Ma parlate per voi che avete i vostri problemi. Le vostre è straordinario, cose. È straordinario. Allora, Francesco da Brescia. Vai. Io però volevo. No, però, ragazzi, andiamo con la rubrica Radio Padania, che ci sono delle cose incredibili da far ascoltare. C'è ancora la Radio Padania? Sì, Radio Padania, Radio Calabria, quello che vuoi, eccetera. Il peggio di radio della fu Radio Padania. Parenzo, si non vogliamo perdonare. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera, guardavano. Ascoltatori a gogo, vai! Servi di Roma fuori. Queste ragazze della generazione di oggi vestono in un modo molto molto molto provocante, ostentano, rientrano a casa alle ore più impossibili. Io dico una cosa: se non vuoi che ci siano determinate trasgressioni, determinate violazioni nei tuoi confronti, per quanto sbagliate siano, cerca di comportarti in modo più casto, più morigerato, perché poi allora vedi che non esponi alla tentazione qualcuno. Ti voglio dire una cosa, questa qua è una tesi assurda, questo qua è un poveraccio, è un povero coglione, non ti esponi se vesti in modo più casto e morigerato, lo dicono gli islamici, lo dicono i mullah, lo dicono gli imam, gli amici tuoi, David. Ma questo dicono dire? I tuoi amici islamici, amico Kabakebji, per esempio, no, il Kabakebji, tuo amico Kabakebji pensa siriano che le donne debbano andare in giro, no, un po' più niente coperte. Questo lo pensa la sua tradizione, la sua moglie pensa uguale, non si sente in alcun modo violata nella che schifo, sua. Che schifo andare in giro coperte, veramente le donne che vanno in giro coperte come le islamiche mi fanno orrore, anche molto, mi fanno orrore, anche invece una certa sensualità, no, il mi fatto fanno di orrore, avere è una l'oppressione donna della donna, è l'oppressione, il simbolo a dell'oppressione. Piacciono sia coperte che scoperte, ovviamente, però trovo un certo fascino anche in queste donne più coperte, perché poi quando che si schifo, scoprono, no, c'è un disvelamento dell'intimità. Potremmo parlarne a lungo, se a lungo, con a lungo. Però continuiamo con Radio me. Padania. Sentiamo. Continuiamo con Radio Padania. Ma io dico, queste due ragazze americane che sono venute in Italia per studiare ci creano sempre un sacco di problemi. Innanzitutto non ci si droga e non ci si ubriaca, quindi la prima colpa è loro. Se ne vadano subito a casa loro. Allora, ma sai che io trovo veramente incredibile. Cara vecchia signora, fai bene a far ascoltare il problema. Roba, però... Il problema non sono le americane che non creano problemi, è lei che crea problemi. No, meno male. È lei, vecchia rincoglionita, vecchia rincoglionita che chiama la Full Radio Padania. È lei che crea problemi al nostro paese. Non sono gli americani che vengono qui e portano quattrini. Rincoglionita. No, bravo, tu ti rendi conto di che dibattito c'è su quella radio? Puoi far ascoltare quello che dicevano su Rimini invece? Cioè, mettiamo i due. Fai così, stupri a confronto, nuova rubrica. No, ma fammi sentire ancora gli ascoltatori. Stupri a confronto, guarda che è vergognoso. C'è da avere la pelle. No, mi diverto, mi diverto. Viva Radio Padania. Ti diverti. È vergognoso. I carabinieri hanno detto chiaramente che queste due signorine non erano proprio sante. Cioè, pare che fossero molto consenzienti e molto condiscendenti. E io questo non stento a crederlo. Senza dubbi né ripensamenti. Non stento a crederlo. Non stento a crederlo. Ma tu sei una povera imbecille, una povera cretina. Tu che hai chiamato la Full Radio Padania. Ancora, ancora, ancora un altro. Servi di Roma fuori. Senza dubbi né ripensamenti. Allora, in servizio non si beve, in servizio non si scopa. Probabilmente in servizio non si ciula. Provocatoriamente suggerirei una linea di difesa per i due carabinieri. Ma lo sapete che la somma dei vizi in un uomo è sempre costante? Di accecarti. Vai vedere. E poi arriva il signor Barin. Signor Barin, senti, ecco, il signor Barin. Quindi queste ragazzette, ubriache, marce, pure drogate, si sono divertite anche a fare il filmetto. Ora non so, mi pare anche qualche foto, qualche cosa mentre stavano scopazzando, mi pare di sì. Tu ti rendi conto? Stavano scopazzando. Io, signor Barin, Radio Padania. Io mi auguro che Salvini prenda le distanze da questa roba qua. Cioè io mi ancora Barin, ancora l'unica Barin. Giustificazione è che Salvini giustamente non ascolta questa porcheria della sua radio. È l'unica giustificazione. Ciabattanti, già, che se ti vedono in minigonna pensano che tu ci stai. Se gli sorridi vuol dire che sei una puttana e vuoi essere scopata. C'è chi, e sono queste corazzate dell'informazione, adesso vuole girare la frittata completamente dicendo: guarda, persino le forze dell'ordine fanno queste cose schifose. Guida il popolo. Tocchi il sedere al carabiniere di turno, signori, e ti danno immediatamente la tessera dell'arcigay. E se è una carabiniera, dell'arcilesbica, signori, è così la realtà. Siamo schiavi di queste potentissime lobby lesbico, gay, trans. Tutto per la libertà. Chiudete quella radio. Servi di Roma. Francesco da Brescia, vai. Senza dubbi né ripensamenti. Francesco. Sì, ci sono, sono qua. Sono dimmi, qua, dimmi, sono dimmi, qua. Dimmi. Volevo dire a Paco, no? Lui Paco, è sì. Un ospite qui in Italia come tutti gli altri. No, non è ospite italiano. Sarà italiano, però. Non è un ospite italiano. È italiano? Vabbè, parlo per tutto il resto di quelli che arrivano qui. Non è un ospite italiano. Oh, allora? Posso parlare? Parla, Francesco, vai. Allora, voglio dire che essendo ospiti queste persone, sì, perlomeno si comportassero bene, visto che li manteniamo, senti, gli diamo da mangiare, gli diamo le case, questo, gli diamo i soldi, gli diamo tutto. Ma come si comporta? Di non gli diamo, lei lo sa, gli diamo anche un conto in banca con dentro un plafond da 300, da con 30.000 euro. Ma non interessa. Lo sa, gli diamo anche un conto in banca. Per accontentare Parenzo, gli diamo anche 1.000 euro per farli stare tranquilli, no? Poveretto questo. Ma perlomeno poveretto si comportassero questo. Bene, poveretto che vanno a cagare questo. Nelle fontane, che fanno casino, che fanno di qua, che fanno di là. Ma ci andrà lei, gli ultras vanno a pisciare nelle fontane. Signor Paco? Non lei, non i migranti, gli ultras vanno a fare la pipì nelle fontane, i vandali. Hai capito Calvino fa male, Paco, aspetta, adesso te lo chiamo Paco, diglielo, sei un ospite. È un pezzo di merda. No, ma aspetta, lei è un animale. Lei è un animale. Aspetta, un animale. Col camion ci vado a Trento. Lei è un animale. io. Lei è un animale. Lei è un animale. Ma non è vero che sono un animale. Lei è un animale. Ma dai tutto quello che vuoi, ma tu ti comporti bene a casa mia. A casa mia, vuoi casa tua. Certo, Italia è casa mia, la mia patria, coglione. La mia patria, casa mia, fa la pipì nella fontana. Ma lui è un ospite, lo devo trovare io a Trento, non ti preoccupare. Ma non è a Trento, Pago, non credo che sia a Trento. A Belluno. Non sapete niente. È un po' diverso, Trento, Belluno, è uguale, Belluno in Veneto, Belluno in Veneto. Non sa niente, è un camionista che non sa neanche la geografia. Come fa a fare il suo mestiere? Non sa niente. Belluno in Friuli, Belluno in Veneto, salame, salame. Ecco ancora questo classico insulto. Scusami, Francesco. Tutti i soldi che vuoi, si devono solo comportare bene. Ma chi? Hai capito? Ma chi? Aspetta un attimo, aspetta che questo altro pezzo di merda qui di cani di palo. No, fermo. Cosa ha detto? Ha bestemmiato questo cretino. Non si fanno queste idiota, cose. Idiota schifoso. Aspetta, Francesco. Idiota, chieda scusa, che schifo. Chiedi scusa, chiedi scusa, che schifo. Ho già chiesto scusa. Che schifo. No, per quello che hai detto prima. Di segreteria telefonica. Che schifo. Che io non parlo più con questo. Lo sai che cosa hai fatto, no? Un'imprecazione molto forte. No, ho detto scusa, no, questo qui è un ospite a casa nostra. No, un'altra cosa hai fatto, manco te ne sei reso conto, manco te ne rendi conto di quello che dici. Manco te ne rendi conto. Hai bestemmiato, questa è la realtà. Hai bestemmiato, manco te ne rendi conto. Scusa, mi è sfuggita. Ho chiesto scusa. Che lei, e lei cosa dimostra quello che in ginocchio? No, lei in ginocchio non va bene, basta, lei ha chiesto scusa. Quello ha chiesto scusa. Ma stai zitto, parente. Ha chiesto scusa. Ti mando lo spurgo, ti faccio risucchiare che sei una latrina. Parezzo, lei ha già dimostrato, insiste ancora? Insiste? Ha dimostrato quello che è Paco. No, Cruciale, basta. Aspetta, basta, Paco, ti deve dire una cosa Francesco, aspetta. Non voglio sentire questo stronzo, basta, cazzo. Aspetta, Francesco. Ma vai a fanculo. Ma aspetta. Dove cazzo siamo arrivati qua? Aspetta. Ma dove siamo arrivati? Cioè, questo qua ha appena detto le peggiori porcherie e dice dove siamo arrivati. Parenzo. Ma guarda, lui dice dove siamo arrivati. Ci rendi conto il mondo al contrario? Io vorrei solo dire questo. Zittala un attimo, allora riaccendi. Cruciale, tu ti rendi, aspetta, ti rendi conto del mondo al contrario che aspetta un attimo, fermi tutti. Io sono Pago. Allora, Pago. Chi è questo cretino? Chi è? Francesco. Io per carità, con Pago non ti voglio parlare con Pago io essere banana. Questa è la parodia, una parodia un po' razzista, però devo dire la verità. No, guarda, Cruciani, Beppe, Cruciani. Nessuna parodia razzista. Io non sono razzista, ma mi stanno facendo diventare tale perché non si comportano bene. Dagli anche 2000 euro al mese sta gente, basta. Ma che chi si non si comporta bene? Ma chi in particolare? Chi? I clandestini, tutta questa gente, le prepotenze che subisce la gente italiana che lavora onestamente sui pullman, per la strada, le aggressioni. Ma questa roba qui non è da italiani, ragazzi. Ciao amico mio. Io ciao, ho girato ciao. Mezzo mondo con il camion, ma non mi sono mai comportato così in giro in un paese che mi ospita. Aspetta, lei è una persona di una volgarità rara. Ma noi abbiamo perso il senso della realtà. Parenzo, stai zitto che ti mando lo spurgo, ti faccio risucchiare nella latrina come te. Hai capito, Parenzo? Sei una latrina veramente che devi dare Cesare ciò che è di Cesare. Ciao, ciao Francesco, ciao. Ciao, ciao, grazie. Mi fece fare un pompelmo ed era un viato, ma tu sapessi che goduria. David sta andando a trans, David sta andando a trans, non c'è niente di male, è eterosessuale. David sta andando a trans, David sta andando a trans, David non è cattivo, ma a volte un po' passivo, ma solo con F-Ball. Ah, e vabbè, vanno a trans, se si divertono a prenderlo a quel posto, che io... A tavola! Che pizza! Roncadin! Che pizza! Roncadin, nel banco freezer! Vi presento La Zanzara. Quanto mi sei mancato, Donato, quanto mi sei mancato! Ascolta e impara, Mauro da Mantova! Ascolta! Non vali niente con fronte a Donato! Ascolta e impara! Viva Donato e abbasso Mauro! Ma tu che la merda! Tu non conti un cazzo! Need a ride, just let me know. tempo. Dalle seghe vere e proprie, le seghe mentali, ce n'è di poca strada, eh? Questo è un deficiente, ma cazzo l'avete trovato? Se devo pensare che io a 14 anni mi facevo le seghe e pensavo al neoliberismo mondiale, ma vaffanculo, va. Pippe, pippe, pippe, pippe, molte pippe. Suddetta pratica è una forma di autarchia egoistica, tuttavia, dove manca il rapporto con l'altro, perché suddetta pratica che voi avete menzionato finisce di fatto per ricondurre l'individuo a una sorta di isolamento programmatico che lo rende simile più a un atomo che non a un membro della razza umana o uno zoon politikon, come lo chiamava Aristotele, cioè un animale comunitario. Fusaro, voglio essere sintetico e chiaro, ma vaffanculo. Finisce di fatto per incrementare la grande tendenza del nostro tempo, che è quella dell'autismo acefalo, che isola l'individuo dal tessuto comunitario di cui è naturalmente parte. Per cui la suddetta pratica che voi avete menzionato potremmo, sì, certo, definirla tipica e coessenziale del neoliberismo imperante. Beh. Ma sto rimbambito che cazzo si è fumato? Manco una pippa mo se potremmo fare. Ma vaffanculo, va. La società non esiste, esiste solo l'individuo. Ottimo. Ebbene, se noi riconduciamo questa formula, questa locuzione all'ambito erotico, sì, al nuovo ordine sessuale che si impone in coerenza col nuovo ordine mondiale capitalistico, troveremo, sì, che la pratica a cui voi avete fatto riferimento rispecchia pienamente le tendenze sociali generali del nuovo, sì, ordine, cioè, dunque, dove appunto abbiamo un'atomistica di individui gaudenti, sì, dove il rapporto stesso finisce per negarsi nella sua alterità. So, comunque il maggiore godimento lo provo leggendo il Simposio di Platone, è una di quelle risposte da svitare i coglioni che neanche Parenzo sarebbe mai riuscito a dare. Incredibile, Fusaro, incredibile. Naturalmente. Ragazzi, naturalmente di cosa si stava parlando? Si stava parlando con Fusaro di masturbazione, caro Parenzo. La cosa più bella è come quell'infame di regista, il signor Lacorte, quel maledetto criminale che è ancora libero, come l'ha montato in modo così sublime, mettendo la dichiarazione di questo signore che ha la dichiarazione dell'ascoltatore, no? Oh, mango e bip, la cosa è incredibile. Come la montata, bisogna dire che è un maledetto, perché è un maledetto Lacorte, però bene. Allora, dove andiamo? Alberto da Parma, vai, Alberto da Parma. Alberto, dimmi. Pronto? Dai, dimmi. Mi senti? Sì, ti sento, vai Alberto, dimmi. Ok, dimmi. Niente, io volevo raccontare questa cosa al volo, al volissimo. Io faccio il taxista, ok? Quindi mi è capitato più di una volta di prendere su delle ragazze ubriache, ok? Sì, sì. Allora? Niente, più di una ci ho provato, con me. Vabbè, adesso Alberto, che vuol dire? Cioè, vuoi far capire Alberto, io sai che ho un'ammirazione sconfinata nei confronti della categoria dei tassisti, che saluto tutti quelli che sicuramente adesso siete in ascolto, vi abbraccio allora, fortissimo, aspetta, grandi allora, lavoratori con la schiena rovinata dal lavoro, eccetera, allora, eccetera. Allora, aspetta, però amico mio, qua, ma è stata una cazzata, che vuol dire che ci hanno provato? Dai, allora, su. Appunto, questa qua è ubriaca. Io parlo del fatto che è ubriaca. Quindi la porto a casa, la tiro fuori dalla macchina, allora, la porto nell'androne delle scale e lei ci prova un po', fa la scema e inizia a baciarmi così. Ecco, è la stessa situazione di quei ragazzi. Ma che ne sai? Ma che ne sai tu? Più o meno, più o meno. Cioè, tu non credi allora? Cosa ne sa? Basta! Ma non mettiamo sullo stesso piano la storia di Remy con questi qua. No, ma infatti io non la metto sullo stesso piano. No, perché l'ho sentito della gente che rompe coglioni. Anzi, ti dirò, forse la storia qua dei carabinieri, da un lato è più macabra, perché noi amiamo i carabinieri, una balla quell'altra, e ti trovi i carabinieri messi in questa maniera e fa schifo, no? È inguardabile la storia. Però attenzione, quando si parla di stupro, è molto diversa. Non si può parlare di stupro in questo caso. Per me non è stupro. Vabbè, ho capito, non è stupro. Adesso lo vedremo se è stupro o non è stupro. Io sono d'accordo con te. Sono d'accordo con te quando dici che non si possono mettere sullo stesso piano. Quello da un certo punto. Sono due violenze. No, quella è un'aggressione. No, ma non dico che non sono violenze tutte e due. Dico semplicemente che mettere sullo stesso piano due situazioni molto diverse. Mamma mia, ma... in cui due persone, in cui due persone vanno in spiaggia e sono aggredite da un gruppo di quattro persone. È un esempio di due violenze anche... sessuali diverse, una più subdola, una... ma insomma, non c'è anche la discussione. Sono due violenze sessuali. Fine. Gli altri sono andati a ingroppare anche il viado. Scusa, non ho mica capito. Parlo di tutto. Ecco il dettaglio. Ecco il dettaglio. Beh, certo. Il dettaglio. Vabbè, insomma, comunque, la realtà è quella. Ecco il dettaglio. Questi qua erano dei cose, degli animali in giro. Animali. Quei due lì l'hanno fatto con un po' più di classe. Così, un po' più di classe. Ragazzi, più... questo. Ma che cosa dice? Ma perché non si vergogna? Ma perché non si vergogna di dire ste robe? Perché? Allora, perché non parlare... riflette Cos'è prima di telefonare? Allora, scusa, perché vuole fare queste questo? Figure da, di palta davanti a tutta Italia, tutto il mondo, visto che va anche in podcast? Perché? No, perché perché allora, si vuol far io... prendere allora, in giro da tutti? Io, perché vuole passare per idiota? Qual è? Io perché? Ma perché parino, quando torna a casa vuole essere umiliato dalla sua famiglia? Perché? Allora, aspetta un attimo che c'è una chiamata qua. Dove la prendo? Chi c'è? No, aspetta. Ah no, ci chiedo scusa. Fusaro, più ascoltatori, no, opera dei Longoni. Chiedo scusa a Longoni. Ogni tanto lavora anche Longoni. Allora, scusate, grazie. Lasciate finire, eh? Sì, vai. Chi ma è la chiamata? Deve dire dimmi più? La chiamata. Chi è la chiamata? Chiamata Guasti Santa Cecilia. Dunque, allora, devi andare lì. Devi andare lì. Devo andare lì. Allora, ascolta questa. Speriamo di non prendere mai sul tassista. Un anno fa. Ma perché per bene è un cretino? Perché è un cretino? Ascolta, un anno fa prendo su una ragazza, questa qua la prendo su. Bene, giustamente l'avvocato Trucco dice chi è questo collega giurista? Dice giustamente l'avvocato Trucco. Ma lasciami parlare, portami a Fornovo. Fornovo è a 50 km, 40 km da Parma. Più sì, più sì, come 30, no, lo sappiamo, 40. Lo sappiamo. Comunque, sì. Allora gli dico, ascolta, gli dico, guarda che intanto parto, prendo la tangenziale, dico, oh, ascolta, guarda che per andare là in notturna ci vogliono dei soldi, ci vogliono almeno 50-60 euro. E lei mi guarda e fa... non ce li ho. E io, come non ce li hai? Era una ragazza brava, una brava ragazza. Allora che c'entra? E lei dice, non ce li ho. Ce la chiudiamo con un pompino? Vabbè, amico mio, però adesso cosa c'entra questo? Scusa. C'entra, cosa perché c'entra? C'è pieno di donne che fanno le stronze. Ma cosa c'entra, amico mio? Ma ascolta, è quello che voglio dire. Dai, Alberto, è una cazzata, non c'entra nulla, dai, su, è una minchiata che non c'entra niente. Ah no, non c'entra niente. Ma non c'entra niente, certo che è pieno di donne che ci provano, come pieno di uomini che ci provano, ma cosa vuol dire questo? La cosa importante è il consenso, c'è stato il consenso in questo caso? Sembra di no, secondo quello che dicono le ragazze, dai. Secondo quello che dicono gli investigatori, sembra che il consenso non ci sia stato, amico mio. La cosa fondamentale è il consenso. Quando il consenso non c'è, addirittura in alcuni casi, anche quando uno è inconsapevole, cioè ubriaco, eccetera, eccetera. Bravo, spesso me lo diceva pure, me l'hanno scritto un sacco di avvocati. Ma noi viene considerato stupro lo stesso. Te l'ho spiegato dall'inizio della La cosa è quella: quando non c'è. Quando e allora adesso, quando uno beve, che sembra la voce di Gene Gnocchi, questa qua. Eh beh sì, allora quando uno è quello, il mio paesano, mio amico Gene Gnocchi, adesso ti parlerò male di te. Comunque sembra Charlie Gnocchi, sì, è la stessa voce. Allora Allora, vedi? Scusa un attimo, se uno ha bevuto un allora, in realtà non è stupro. Allora è un bacio, un po' più fa cosa. Allora che volevi dire? Non ho capito. Hai fatto il carabiniere. E sono stato anche bravo e mi hanno chiesto anche di fermare, ma quella, la cosa del ma la cosa ho del preferito fare il tassista, sì, ma la cosa, la cosa del pompino com'è finita poi? L'ho portata dai carabinieri, l'ho portata perché lei mi ha detto che gli aveva rubato la borsetta, che ci aveva i soldi. Allora gli sì, te lo giuro. Ah no, che cazzo la faccio, la porta a Fornovo? Amico mio, non me la racconti giusta. E l'ho giusto mia madre. No, ma ti dico questo, ti dico. L'ho portata dai carabinieri, l'ho portata, ok? Ma che gli ho detto, tu non hai documenti, okay, non hai niente. Okay, come sì. Fai ad andare a casa fino a Fornovo? Io non ti porto, gli ho detto. Lo sono andato davanti alla caserma. Questo è una maniera di comportarsi. E che Tito, mica farsi fare il pompino e andare a Fornovo. Io l'ho portata dai carabinieri, ma che lei non aveva la borsa, non aveva un cazzo, non aveva neanche niente, neanche il cellulare, non aveva niente. Vabbè, ciao, vabbè, ciao, ciao, ciao. Dimmi che almeno sono un grande, no? Beh, che cazzo gli devo dire, sei un grande, sì. Sei un grande. Per quello che hai detto adesso, sì, per quello che hai detto prima, no. Cioè, ciao, vabbè, ciao. Però voglio dirti una cosa, David. L'idea, in fondo, che questi carabinieri... io sto dicendo di quello che ho ascoltato fino adesso, io... Io baso tutto, no, io baso tutto sulla questione. Sentiamo del consenso. C'è stato consenso o non c'è stato consenso? A parte che questi qua sono rasentano la vergogna per il solo fatto di avere scopato. Di avere scopato con la divisa addosso. Cioè, questi qua, se queste qua erano veramente in pericolo o avevano bisogno di un passaggio, innanzitutto non dovevano darlo, ma se fossero state veramente in pericolo, avrebbero dovuto in pericolo, comunque in cerca di una ubriache e dunque non riuscivano a trovare un taxi, avrebbero dovuto portarle a casa, aprire il portone, chiudere il portone e andare di nuovo, tornare in servizio. Questo mi sembra abbastanza evidente. Però quello che sento è che le studentesse sono delle prostitute, queste americane la danno a tutti, bevono e dunque se uno beve o uno si droga, poi alla fine non è che puoi rompere troppo il cazzo se c'è qualcuno che ci prova. Dai ragazzi, su. Tipi da zanzara, andiamo ragazzi, andiamo con un bel tipi da zanzara, Vai, Mauro da Messina. Tipi da zanzara. Vieni a Messina, venite a Messina dal sindaco del cazzo quale abbiamo. Con la gente che caga e che pisce in mezzo alla strada. E non ci si può dire niente. Le aiuole, i parchi giochi dei bambini presi d'assalto di questi pezzi di merda che non fanno un cazzo dalla mattina alla sera. Chi e sarebbe? Non spacco il culo e pago le tasse per questi qua. Ma chi sarebbero? Siamo rotti coglioni. Ma chi sarebbero questi qua? I migranti? Sì, ciao, vieni a Messina. Perché siamo pieni? Perché qua prendono, qua ci sono più cooperative che persone. Ho le palle, lo sai quanto ho le palle? Yeah. 200 chili, perché a me mi rompe il cazzo, l'agenzia delle entrate a me mi rompe il cazzo se vado a comprare un frigorifero e me lo spiega. E questi sono sulle panchine a vendere senza licenza e senza niente. E fortunatamente ancora non ci sono messi in testa di inchiappettare gli uomini, perché se tu non ti fai inchiappettare sei razzista, perché ti neghi a un negro, hai capito? Ancora così arriviamo. L'Italia è una merda. Sono andato in Spagna, non c'era un cazzo di extracomunitari in mezzo ai coglioni che cagava e pisciava nelle aiuole, non ce n'era uno. Qua siamo pieni, qua ci cagano il cazzo e ci cagano pure nella strada. Vieni, ti faccio vedere, ti metti sdraiato e ti cagano di sopra. Vieni. Questo è quello che dobbiamo sopportare. Salgono sugli autobus e non pagano. E se gli dici qualcosa ti alzano pure le mani. A meno perché fortunatamente faccio pugilato. Vorrei che qualcuno mi cagasse il cazzo. Poi parliamo di legittima difesa. Li prende a calci il culo fino in Africa. Questo. Ci siamo rotti il cazzo. Ci siamo rotti il cazzo. Ormai lo sanno tutti. Perché non fate tutto gratis? Levate, non volete, non prendete soldi dal governo. Li butterete al mare l'indomani. Italiani! Italiani una volta, ora tu pezzi di merda. Ciao. Ora pezzi di merda. Ora se tocchi un extracomunitario, sì, ti denunciano, non puoi fare niente. Ciao. Denunciano. Ciao. Adesso parliamo seriamente. Siete due delinquenti, pagliacci e imbecilli. Andate a fare il culo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presento. State ascoltando un programma offerto da. Per gestire le risorse umane ci vuole experience. Scoprila su inaz.it. La zanzara. Gli africani sono africani, cioè sono persone che purtroppo hanno dimostrato di non avere una gran cultura del lavoro, tant'è che vivono nella merda. Ha ragione Feltri quando ti dice: ma te gli immigrati non sai neanche cosa sono. Tu gli immigrati non sai neanche cosa cazzo sono, Parenzo, perché alla 7 nel tuo salottino io non vedo l'immigrato scalzo che si scaccola in giro per la strada, hai capito? Hai capito? Quelli non ci sono. A questo gioco al massacro io non ci sto. A questo gioco al massacro Non ci sto. Era rivolta a te però quell'ascoltatore, eh? Io a questo gioco al massacro non ci sto, come ebbe a dire Oscar Luigi Scalfaro. Allora, apprendo che i grandi democratici della Lega Antivivisazione Italiana, LAV, ha pubblicato un annuncio di lavoro nella sua sede romana con la richiesta di un requisito che è proprio, guarda, sono proprio antidemocratici questi qua. Perché? Vabbè, ma è la LAV, però. No, ma lo sai come? Cioè, vuoi fare uno stage da noi? Ti assumo solo se sei vegano. Vabbè, è legittimo, però sono la LAV. È legittimo? Ma sì, è legittimo. No. Titolo preferenziale per essere ammessi allo stage. Beh, essere quello, vegano. Quello però può, non è che ti dà, cioè, fastidio. Cioè, requisiti richiesti: laurea triennale, conoscenza e funzionamento di istituzioni europee, ottima conoscenza, confidenzialità, atteggiamento proattivo, disponibilità e trasferta. E allora non ho capito. Taormina che non voleva gli omosessuali nel suo studio. Quella è una discriminazione palese. Questa no. Questa non è una discriminazione. Costituisce titolo preferenziale. La, beh, per il vegana. Tipo di lavoro che devono fare, può essere che abbiano una sensibilità maggiore. Dai, questo non mi scandalizza. Su, non ti scandalizza. Non mi scandalizza. Dai, non mi scandalizza. Su, dai, su. Dai. Apprendo anche, caro David, che non dico niente per carità, che una ragazza finlandese a Roma, caso molto grave di queste ultime sì, ore. Me lo aspettavo. Una ragazza finlandese. Era un po' che stavo vedendo questa notizia. Aspettavo. Una ragazza finlandese è stata violentata e rapinata in pieno centro a Roma, vicino alla stazione Termini. Cioè, esattamente dove tu sei adesso. No, esattamente non sono dove qua sei adesso. Io adesso. Beh, sì, sei a Piazza Indipendenza. No, non sono. Sì, diciamolo, Parenzo è a Piazza Indipendenza. No, sono a Milano. Amici. Compagni. Ma perché amici? Andate, sono a Milano. Trasferitevi là. Ma perché devi fare questa ragazza finlandese violentata e rapinata in pieno centro, cioè vicino alla stazione Termini, arrestato un giovane di 23 anni. E va bene. Vogliamo aggiungere un dettaglio in più o non lo aggiungiamo, Parenzo, il dettaglio in più? La notizia l'ha data la L'aggressore Repubblica, quindi... è originario del Bangladesh, la 23 Repubblica. Anni. L'ha dato la Repubblica. Aggressore originario del Bangladesh. Vediamo libero come lo mette. E ha un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Eccolo qua, adesso in prima pagina anche su Libero, strano, quella dei carabinieri non c'è. Aggressore strano. Originario il del Bangladesh. Titolo di Libero, appena fatto, ce l'ho qui. Immigrati scatenati. Adesso mi incazzo però, te lo giuro, ce l'ho davanti. Adesso mi incazzo, no. Scusami, non ne posso più. Titolo: immigrati scatenati dopo Rimini, tocca a Roma. Vittima ancora una turista presa a pietrate e stuprata. Immigrati scatenati. Ma cosa ridi, cazzo? Però sotto c'è la notizia dello stupro sì, americano. Hanno messo anche quella sotto. Lo stupro dell'americano. Il dramma dell'altro carabiniere indagato. Il dramma dell'altro carabiniere. Basta! Il dramma dell'altro carabiniere indagato. Il racconto shock dei colleghi. Cosa fa tutto il giorno? Ma vergogna! Ma che no... Cosa fa tutto il giorno? Il carabiniere? Questa qui è da lezione di giornalismo proprio. Ma non perché sono io. Immigrati scatenati. E l'altro è il dramma del carabiniere? Vergogna! Basta! Horror senza fine. Un 22enne bengalese picchia e stupra una giovane finlandese. Non è un orrore. Ma perché ridi di questa porcheria? Comunque, ragazzi, immigrato del Bangladesh con permesso di soggiorno per motivi umanitari, che ha preso un po' alla lettera. Questi motivi umanitari sono stati presi un po' troppo alla lettera. Massimo da Genova, dai. Buonasera. Dimmi. Volevo dire che da quando avete ripreso dal primo settembre mi sembra che Parenzo abbia assunto un atteggiamento, stia un po' esagerando, voglio dire, un po' sopra le righe a livello di insulti. Stia un po' esagerando. Mi pare che sia... Ma in che cosa? Qual è la circostanza? Citami una circostanza. Gliela cito subito. Prima di tutto volevo citare un fatto. Voglio dire, prima delle vostre ferie, Parenzo si era scatenato contro il magistrato Zuccaro con toni ed espressioni che secondo me erano veramente, secondo quello che dice Parenzo, al limite della querela. E l'ha preso in giro, mi ricordo perfettamente tutte le frasi, allora... gli insulti, eccetera. E poi dopo è risultato che Zuccaro aveva messo sul tavolo delle cose che poi sono sviluppate e quindi adesso, partendo da quelle sue affermazioni, si sono tirate Zuccaro, fuori. Zuccaro, diciamo la verità, Zuccaro aveva perfettamente ragione, signor Zuccaro. Però Parenzo, bisogna che Parenzo, aspetti un attimo, come un cane e da quando è tornato dalle chiedi serie, scusa Zuccaro. Non dice una parola. Chiedi scusa Zuccaro. No, chiedi scusa Zuccaro. Tutt'altro, aspetta. chiedi scusa a Zuccaro. Aspetto solo che il dottor Zuccaro rinvia giudizio prima di formulare accuse. Aspetto solo che il dottor Zuccaro formuli i capi di imputazione anziché fare delle conferenze stampa. Giovanni dalla politico, provincia di Teramo, fa dai. Il magistrato. Giovanni aspetto dalla provincia di Teramo. Parli con gli altri. Dimmi Giovanni, dimmi, dimmi. Grazie mille per farmi intervenire. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Innanzitutto, se mi consente, vorrei fare tecnicamente come artista, Dimmi, dimmi. Il fondo schiena di Parenzo è favolosamente disegnato bene. Beh, questi siamo al top qui, eh. Qui siamo veramente al top. Gente? Qui siamo veramente al top assoluto. Allora, Giovanni, professore, dunque, provincia di Teramo, mi sembra, sostiene però con l'accento fiorentino, mi sembra, o no? No, no, no. Beh, no, no. Io sono di origine anconetana. Di origine anconetana, qua ho scritto la solita riga che ho scritto qua davanti, insegnante a Firenze, vero? Insegnavo, docente. Docente a Firenze. Scusa, tu stai dicendo che il fondo schiena di Parenzo, cioè il culo di Parenzo, è perfettamente disegnato. Non interessa nessuno. È un disegno favoloso. Ma tu essere, scusami Giovanni, tu essere per caso un po' gay o ma no? Ma quando l'ha visto poi? No, ma non c'è niente di strano, per carità. Non assolutamente, tre mogli e quattro figli. Ma questo non c'entra nulla, questo è, no? Sì, ha ragione, in effetti. Però non sei omosessuale, non sei omosessuale, no. Però tu consideri il di dietro di Parenzo perfettamente disegnato. Ma cosa ne sai? Ma ti sta dicendo che è un bel culo? Di scultura, eh? Come professore di scultura, stai dicendo che è un bel culo e non va bene, scusami. David, è incredibile. Vabbè, allora? Dunque, stavamo parlando in quel momento dei carabinieri allora? E delle due cosiddette... Sì. Cioccoli, quello che ha detto questa frase non sa neanche cosa significa. Dunque? Cioccoli, coloro che portavano gli zoccoli e camminando battevano per terra gli zoccoli. Sì, zoccoli, però in noi Italia... Ma noi è inteso purtroppo in senso negativo, invece secondo me non è affatto... Sì, ma è sbagliato per la semplice ragione che ognuno è libero di fare quello che sì, vuole. Sì, ma che cosa ci volevi dire, Giovanni, nel tuo intervento? Nulla, assolutamente ecco, nulla. Che no, una cosa molto seria. Cosa? Ci sono un paio di locali a Firenze dove sono frequentati da ragazze inglesi e americane. E allora? Per la maggior parte. Sì. E ci sono molte che hanno il piacere di creare questi presupposti anche per valorizzarsi a livello artistico. Ma che vuol dire? Però andiamo al sodo, Giovanni, dai, io non ho tempo io, dai. Se quella signorina poi rivelerà il suo nome, anche se è una somara, venderà i suoi disegni all'ira di Dio. Ma chi? Ma io non ho capito ma di cosa chi? Sta parlando. Ma di chi sta parlando? Ho una difficoltà oggettiva. Vabbè, arrivederci Giovanni, la prossima volta, ciao, ciao, ciao. Allora, io chiuderei gli ultimi 5 minuti di questa trasmissione, caro David, di questa straordinaria trasmissione di oggi con tantissime cose dentro, con dei personaggi incredibili che sono intervenuti, scontri, come giusto che sia, anche tu sei stato molto attivo per fortuna, ti ho visto carico anche stasera, carichissimo, no. Con una frase di Fusaro sulla masturbazione. Attento. Suddetta pratica è una forma di autarchia egoistica, tuttavia, dove manca il rapporto con l'altro, sì? Perché suddetta pratica che voi avete menzionato finisce di fatto per ricondurre l'individuo a una sorta di isolamento programmatico che lo rende simile più a un atomo che non a un membro della razza umana o uno zoon politikon, come lo chiamava Aristotele, sì. Cioè un animale comunitario. Beh, straordinario. Abbiamo con noi il professor Maurizio Bossi. Buonasera. Buonasera, Cruciani. Ciao Parenzo, ben ciao, trovati. Caro allora, professore. Ciao. Il professor Bossi, insieme a lui sono stato sabato a Padova, dove abbiamo deliziato il pubblico presente parlando di varie cose. Una cosa che mi ha colpito, l'ho detto all'inizio della trasmissione, è questa. Sì. C'è una signora che è intervenuta dicendo che due persone, una coppia, si sono presentati una volta dicendo non riusciamo a procreare, non riusciamo a fare figli perché continuiamo e non riusciamo a capire come funziona la penetrazione e indicavano l'ombelico, cioè praticamente tentavano la penetrazione con l'ombelico e il professor Bossi pure era stupito, però è successo anche a me, ma è vero che è successo anche a lei professore? Cioè, non personalmente, nel senso che l'ho vissuta io, ma me l'hanno raccontato, è vero, ma è una cosa che riguarda un po' di anni fa, una signora bellissima anziana, sì, mi raccontava la sua iniziazione sessuale e diceva: la prima notte, pensi dottore, mio marito insisteva, e pensavo che fosse molto esperto, insisteva con un belico, ma pensavo che fossero i preliminari, invece tutta sera continuò così, ovviamente non riuscì a sverginarmi, e allora io rimasi molto colpito sull'educazione sessuale di queste persone, ma dico, questo succede da tanti anni fa. Invece a Padova l'altro giorno una gentile signora si è alzata e ha raccontato che ancora oggi succede questo. È marginale, è reale, è poco, però ci dice ancora che ci sono delle sacche di ignoranza. Ma certo, sull'autarchia possiamo dire qualcosa. Ecco, appunto, l'autarchia, cioè dire la masturbazione come autarchia, come forma, sì, come una forma di solitudine, se vogliamo. Io, come sai, non sono d'accordo con questa cosa. Tu però hai una teoria, cioè il ragazzo, il ragazzino, il tredicenne, il quattordicenne che inizia a conoscersi, che inizia a toccarsi, deve essere addirittura aiutato dai genitori a capire, sì, come si fa, cioè tecnicamente come si fa. Questo è imbarazzante. Lo dice il professor Bossi. No, io perché. Cioè, non, per esempio, non andare troppo veloci, vero? Esattamente. Il dato è acquisito. Cioè, quale? L'eiaculazione precoce è in aumento nella popolazione, soprattutto allora? Giovanile. E la eiaculazione precoce da che cosa dipende? Da tanti fattori, ma ce n'è uno fondamentale. Se sbagli la prima volta, e sbagli la seconda, e sbagli la terza, acquisisci questo metodo. Qual è il metodo? Adesso non rispondete voi due, ma chi è in macchina in questo momento risponda a questa domanda. Come è avvenuta la mia iniziazione sessuale, la tua iniziazione sessuale? In altri termini, il tuo primo autoerotismo. Come è avvenuto? Dai, dillo. Io rispondo, io provo. È stato veloce, rapido e immediato per la meta. È chiaro? Certo, evidente, era di nascosto, certo. Era fatto velocemente, in senso un po' di disagio, ma certo. Bene, quella cosa ripetuta 1, 2, 300 volte porta a che cosa? Porta al fatto che mi va benissimo l'autoerotismo come espressione di conoscere il sé, ma se lo conosci male, poi ti orienti anche male. Ecco. In altri termini, sì, che cosa deve dire un buon padre? Ragazzo mio, hai 13 anni, certo, anch'io li ho avuti, certo, capisco perfettamente, certe cose sono fisiologiche, sono normali, però... ma vanno fatte bene. Come? Lento, leggero, progressivo e poi fermati, fermati un istante, stop. E poi riprendi. Lo sai che se facessero tutti questo fallirebbero i venditori di pillole per l'eiaculazione precoce. Fondamentale, fermi tutti. Allora, io ripeterei queste cose. Lento, Parenzo, anche tu hai da imparare da queste cose. Hai figli maschi, hai figli maschi. Quando presto, cominceranno a toccarsi, devi andare lì, insieme al professor Bossi, e agire di conseguenza. Cioè dire lento, leggero, progressivo e stop. Fermarsi, capito? Voi iniziate a farvi una sega, poi lentamente. No, fermati, scusi, come la chiama lei? Autoerotismo, sì, scusi. Autoerotismo. Cominciate con l'autoerotismo, insomma, come lo sapete. Non vuol dire farlo in auto necessariamente, beh, vero? Però può capitare, naturalmente. Può capitare. Cioè, lento, leggero, che vuol dire leggero? Leggero la pressione, deve essere quella con la contenzione forte, come uno vuol sentire di più sull'apice, sul glande, certamente. Sì. Impara a sentirlo più leggermente, ma soprattutto... Progressivo. Ma che vuol dire progressivo? Non veloce, non rapido, non furioso, progressivo. Con un aumento del ritmo progressivo, no? Con un aumento buon concerto. È una lento, toccata, ma non fuga. Lento, leggero, progressivo, stop, sì, poi lento, leggero. Sì. Scusi, in quanto tempo lei consiglia di arrivare? In quanto tempo lei consiglia di arrivare alla, diciamo, alla venuta, l'orgasmo, diciamo, di arrivare alla conclusione, all'orgasmo? All'acme della risposta, sì. Le prime esperienze possono essere pochi minuti, ma poi, come hanno insegnato anche nel tantrismo, pensate, l'avevano già capito, può durare anche mezz'ora. 40 minuti. Beh, ottimo. Mezz'ora 40 minuti di sega è stupendo. Grazie, professor Bossi, la ringrazio. Buonasera. Ciao ragazzi, mi raccomando, però adesso, sì, non eccitatevi. A domani, ciao. No, figuriamoci ormai. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.